secondo anno e è partita questa idea e quindi praticamente un gruppo di persone variegato, capite, nato da Gianni Scotto che ha detto che verso le 6 viene a salutarmi, che è stato un po' bloccato in famiglia. E quindi ha deciso di organizzare incontri tematici che si svolgono, l'anno scorso, almeno la primavera scorsa, si sono svolti alla Biblioteca Nova, e laboratori pratici. I laboratori invece si svolgono qui, quindi c'è stata una prima esperienza di alcuni laboratori la primavera del 2018, poi la primavera scorsa, e questa è la versione autunnale, che però avrà degli stracci fino a febbraio, perché i primi due laboratori di settembre non sono partiti, non eravamo riusciti ancora a informare, e quindi recupereremo a gennaio il viaggio nel pianeta conflitto e a febbraio l'esperienza sul focusing. E mentre invece abbiamo ancora da tenere il laboratorio di Caterina sul Teatro dell'Oppresso, che sarà il 7 di dicembre, quindi se qualcuno dei presenti vuole aggiungersi in questo lenzuolone colorato può anche scriverlo accanto se non volete andare a ricercare il link, altrimenti ricercate il link e vi iscrivete nel link, ma insomma vi fidiamo lo stesso anche se vi iscrivete qui. E in questo momento oggi ci sono, allora c'è il laboratorio di Francesco Cappello per il quale siamo qui, alcuni di noi si fermeranno anche dopo perché dalle 6 in poi facciamo il primo incontro di autunnale, diciamo, di un gruppo di lavoro promosso con l'uso di Olivier sulla pedagogia non violenta, e anche su questo, se qualcuno di voi si vuole aggiungere, ripartono i lavori, diciamo, oggi stabiliremo la tempistica e le modalità. La terza cosa che partirà è un gruppo di lavoro sul metodo dell'equivalenza, perché abbiamo avuto Pat Patford i primi di novembre. Eravamo un gruppo molto numeroso e abbiamo lanciato quest'idea di lavorare sul suo metodo, quindi attraverso il suo libro e con le indicazioni che Pat ha dato, e quindi si sono iscritte una ventina di persone, mi sembra. E quindi quella è un'altra cosa ancora, perché c'è stato su cui chi si è iscritto avrà informazioni presto. Presto partirà l'anno nuovo e poi sono tu se no, vi potete iscrivere, no. Il primo incontro sarà a gennaio e poi sarà un gruppo di autoformazione che si troverà circa una volta ogni mese e mezzo, un percorso lungo perché dura circa 3 anni e mezzo. Cioè si paga soltanto il rimborso di PAS quando viene, sì, una volta l'anno, per il resto è tutto, cioè ci autogestito. Noi l'abbiamo già fatto, ma lo rifacciamo volentieri perché almeno, no, abbiamo sempre da imparare. Quando non si smette mai. Sì, volevo solo dire, aggiungere una cosa per chi c'era l'altra volta, che Pat aveva detto che forse sarebbe potuto venire a dicembre, ma purtroppo no, per cui mi ha mandato un'email qualche giorno fa dicendo che ci farà sapere quando potrà essere disponibile, presumibilmente appunto quando viene a gennaio. Però ora tanto questa cosa che vi sto dicendo a voce, poi adesso che devo recuperare tutta la lista di mail, facciamo una mail a tutti. E anche su questo vi aggiungete in questo elenco, se siete, di sicuro siete in questo elenco perché siete qui, aggiungete accanto, insomma, nella riga metodo equivalenza oppure gruppo pedagogia non violenta. Scusaci, ma... Tocca a me? Sì. Allora, io vi ringrazio per essere tutti qui e vi ringrazio per questo interesse per la maieutica di Danilo Dolci. Io ho conosciuto Danilo molto tempo fa, l'ho conosciuto all'inizio della mia carriera da insegnante, educatore, e l'ho conosciuto in Garfagnana. Lavoravo a Barga, in una scuola, è una carissima collega, amica, che lo aveva invitato, ha detto: Francesco, assolutamente ci devi essere, perché sono riuscita, di nuovo viene Danilo da qui a scuola. E Danilo Dolci per me era un sentito dire a quei tempi, siamo all'inizio degli anni 90, Danilo Dolci, sapete, ha lasciato questo mondo. Ma l'ha lasciato? A me pare di no, perché oggi, ogni volta che apro un libro, sembra che lui mi parli. Anche oggi ho aperto un libro a caso, perché cercavo delle cose, anche per voi oggi, e trovo subito le cose giuste. Come, beh, non ci credo a quello che dico, però puntualmente si verifica. E insomma, lui ha lasciato questo mondo nel 97. Quando l'ho conosciuto, io ero all'inizio della mia attività di insegnante, ero ancora precario, lavoravo in questa scuola, avevo già fatto un anno di lavoro insegnando elettronica allora a Castelnuovo di Garfagnana, sono un fisico di formazione. E l'anno dopo lavoravo a Barga, quindi in un borgo vicino a Castelnuovo di Garfagnana. Quando l'ho conosciuto, lui aveva riunito proprio in questo modo tutti gli studenti, ma di due classi. A me sembravano già tanti una sola classe, ma insomma, due classi di studenti, tutti lungo le pareti, hanno fatto un grande cerchio. E la prima cosa che mi sorprese è che lui domandava, e la prima domanda che ha rivolto a tutti è: dimmi tu chi sei, dimmi tu chi vuoi diventare, qual è il tuo sogno? Una cosa che uno la può pensare come banale, in realtà nel corso del tempo io sono riuscito a valorizzarla enormemente questa richiesta, perché è una richiesta che lui faceva a ciascuno, chiedeva a ciascuno di individuarsi. Tu chi sei? Chi vuoi diventare? Era un po', se chiedesse, era un po' come chiedere allo studente: dimmi quali sono i tuoi interessi, quali sono i tuoi sogni, perché questo è importante per te, per la tua vita, per la comunità. Perché doveva dichiararlo anche pubblicamente. Ecco, anche qui il ruolo del gruppo, no? E ho visto per la prima volta un'attenzione enorme da parte degli studenti, che mi ha sorpreso. Non solo perché lui aveva, sì, certo che aveva un carisma, ma era proprio perché domandava. E si è creato subito un clima di grande attenzione da parte degli studenti che si sforzavano di dire. Cioè, si sforza forse per la prima volta alcuni, altri no. Altri no, ci avevano già pensato per conto proprio. E quando arrivò, si fece tutto il giro, arrivò il suo turno, di sé disse: io mi chiamo Danilo, io non sapevo ancora bene chi fosse, l'ho scoperto dopo, questa personalità enorme del Novecento. Non faccio lezioni, pongo domande, faccio domande. Ecco, è già qui, come tutti sappiamo, come tutti intuiamo, questo è un ribaltamento completo. Io nel corso degli anni, da allora, ho iniziato praticamente così, sperimento la maieutica di Danilo Dolci. Ho scoperto che lui questo lo faceva con i contadini, i pescatori in Sicilia. Non li chiamava laboratori maieutici, li chiamava a quel tempo, siamo negli anni 50, 60, chiamava Gruppi di Autoanalisi Popolare. Questo era il nome che veniva dato a questi cerchi. Questi cerchi maieutici, la domanda, diciamo, la domanda tipo era a quel tempo, era una domanda che chiedeva a contadini e pescatori di rendersi consapevoli non solo singolarmente ma collettivamente, quindi col contributo del punto di vista di tutti, quali fosse la situazione lì, qual è lo stato delle cose in cui viviamo, che Sicilia è questa in cui viviamo. Questa era la prima domanda, una delle domande principe, e molti laboratori si svolgevano in questo senso: qual è la situazione qui nel luogo in cui viviamo. C'era un'altra domanda che arrivava dopo qualche tempo, dopo diversi cerchi di questo tipo. L'altra domanda è: come possiamo cambiare lo stato delle cose qui in Sicilia in maniera da far crescere il bene comune? Ecco, da questi laboratori nasce in Sicilia, come sapete, la Sicilia di quegli anni, diciamo nell'immediato dopoguerra. C'era stato nel 1947 Portella della Ginestra, in pratica la prima strage di Stato italiana. Portella della Ginestra segna, in qualche modo, è un po' il codice genetico dell'Italia che verrà. È vero, siamo stati e ci siamo liberati dal nazifascismo, ma in realtà si è sostituito un altro dominatore. Lo certificano tuttora oggi più di 100 basi militari, tante USA NATO, che sono sul nostro territorio. Quella strage di Stato, abbiamo saputo, molti hanno immaginato, tra l'altro Danilo è stato uno dei precursori della storia orale. Lui chiedeva: cos'è successo qui nel 1947, la strage di Portella della Ginestra? E lui ha capito dal racconto delle persone quello che poi è venuto chiaro una volta desecretati i documenti del Ministero degli Interni nostro, dell'OSS, l'ex CIA americana, o i servizi segreti del Vaticano. Tutti hanno contribuito a quella strage, perché siamo all'inizio della Guerra Fredda e in quel tempo in Sicilia c'era la lotta dei contadini che chiedevano la terra che gli spettava per legge. La legge di cui parliamo è la legge Gullo. La terra ai contadini, le terre incolte degli aristocratici ai contadini. Come sapete, sono state uccise 11 persone durante il 1 maggio e si festeggiava la vittoria elettorale del fronte delle sinistre. Erano i comunisti, i socialisti, gli anarchici, i sindacalisti che tutti insieme chiedevano le terre. Danilo arriva all'indomani di questo grande movimento che c'è in Sicilia, in tutto il meridione, per la richiesta delle terre. E ritornando a quei cerchi, perché dico che quello è il codice genetico dell'Italia che verrà? Perché a quella strage di Stato, come sappiamo oggi, ne sono seguite molte altre. Ogni volta che l'Italia minacciava di uscire dai binari atlantici, noi abbiamo subito il terrorismo organizzato portato in Italia dall'esterno. Che apparisse come terrorismo di sinistra o di destra, oggi si è capito, grazie alle indagini anche di grandi magistrati, tra i quali è importante nominare Imposimato, che ci ha lasciato qualche tempo fa. Abbiamo capito che quelle stragi di Stato, chiamate di Stato, ma in realtà organizzate dal di fuori, servivano a tenere l'Italia a non farla evolvere in determinate direzioni. Quale direzione è presto detto? Quella della attualizzazione della Costituzione del 48, perché gli interpreti principali, integrali di quella Costituzione sono stati il primo Moro, è stato ucciso, come sapete, ma è stata uccisa tutta quella stagione. Noi qui siamo all'interno di un luogo voluto all'interno di quel contesto, piano Fanfani, in a casa. Quella è un'Italia che noi abbiamo alle spalle e che bisognerebbe riportare di nuovo in essere, perché quella è un'Italia, quella è una stagione che ha fatto grande l'Italia. Noi oggi ricordiamo gli anni 70 come gli anni di piombo. In realtà io vi invito ad andare a vedere le leggi che abbiamo concepito negli anni 70, esatto, di enorme, grandissimo valore, e se le elenchiamo ci fanno venire la pelle d'oca, perché ci accorgiamo che sono tutte le leggi che sono state smantellate nella stagione successiva, a partire dagli anni 80 in poi. Torniamo a Dolci. Dolci operava nella Sicilia degli anni 50 e chiedeva ai contadini. I contadini dicevano, per esempio, nella stagione delle emigrazioni verso... Io sono nato in Australia perché mio padre a quell'epoca andò a cercare fortuna in Australia. C'erano tantissimi che andavano in Germania, tantissimi che andavano nel nord Italia, un'enorme emorragia per il sud. E Danilo chiedeva a quel tempo: come possiamo cambiare la situazione qui, ora? E i contadini dicevano, in questi cerchi, se avessimo l'acqua, siccome non c'è l'acqua, se avessimo l'acqua, perché l'acqua che c'è qui è acqua di mafia, dicevano i contadini. E nelle fasi successive dicevano anche: l'acqua ci sarebbe, solo si spreca in mare. C'è un libro grosso così, pubblicato da Einaudi, intitolato Spreco. È una raccolta di dati che il centro studi di Partinico, c'erano diversi centri studi, perché in Sicilia si sperimentava a quell'epoca, siamo nel dopoguerra, il mondo si era diviso in due: da una parte c'era il collettivismo sovietico, dall'altra c'era l'economia occidentale che ancora non aveva ripreso, cioè la Costituzione del 48, questo lo dico, non l'ho mai detto in questi contesti, ma è importante. I nostri costituenti scrivono la Costituzione del 48, e bisogna leggere i verbali della Costituente, e dicono: dobbiamo scrivere la Costituzione in maniera tale che non accada mai più. A cosa si riferivano? Si riferivano alle grandi guerre mondiali, ma dicevano anche che quel sistema economico, e si riferivano al liberismo, che ha generato le grandi crisi di inizio secolo, che ha generato i totalitarismi, che ha portato alle guerre mondiali, questa successione di accadimenti, tutti legati tra di loro, bisogna fare in modo che non accada mai più. Ecco cosa dicevano: dobbiamo scrivere la Costituzione in maniera che non possa più accadere quello che già sappiamo essere negativo, patologico. Si riferivano al liberismo, alle grandi crisi economiche che hanno dato vita ai totalitarismi e alle grandi guerre mondiali, e scrivono la Costituzione in questo senso. Danilo, insieme a tanti altri, è uno degli interpreti integrali della Costituzione. Uno dei suoi libri è intitolato Processo all'articolo 4, quando organizzano le lotte per il lavoro. Viene organizzato in Sicilia in quegli anni un grande convegno nazionale per la piena occupazione. E lui chiede ai contadini, questi laboratori di autoanalisi popolare, e i contadini dicono, beh, se non avessimo, se avessimo un'acqua nostra, non fossimo sottoposti al gioco della mafia, la mafia agraria a quel tempo, non si era ancora trasferita del tutto in città la mafia, beh, allora forse potremmo evitare di andarcene all'estero. E poi, poi nei laboratori successivi, ecco i gruppi di autoanalisi popolare che riorganizzano l'esistente, dicono, però un modo ci sarebbe di avere l'acqua nostra, facciamo in modo che non si disperda in mare, insomma, da questi laboratori nacque un lago, il lago di Poma, che è un invaso, se andate in Sicilia vi invito a visitarlo, perché appare come un grande lago, una diga, che dà acqua a 15 comuni nella zona e anche a Palermo. Insieme al lago di Poma nasce la cultura cooperativa, l'acqua viene gestita comunitariamente in forma cooperativa. Ecco cosa nasce dai gruppi di autoanalisi popolare, cosa nasce dal metodo maieutico. Nasce anche il centro educativo di Mirto. Perché il centro educativo di Mirto? Lo si può leggere in un altro testo pubblicato da Einaudi, intitolato Chissà se i pesci piangono. Lo trovate nelle biblioteche? No, si trova pochissimo. Si trova pochissimo, però nelle biblioteche quelle legate in rete... Sì, qualcuno ce l'ha. Sì, perché qualche anno fa abbiamo organizzato una settimana di studi, 10 anni dalla morte di Danilo, 10 anni di studi, cioè a 10 anni dalla morte abbiamo organizzato una settimana di iniziative intorno alla figura di Danilo Dolci, no? E la biblioteca di Pisa organizzò, fece una cosa bellissima, tutta l'opera di Danilo Dolci e chi aveva scritto su di lui, insomma una mostra biobibliografica delle opere di Danilo, e quindi che è stata una cosa fantastica. E loro si procurarono i libri in questa maniera, con la rete telematica. Sì. Tante però, perché io ho faticato tanto. Sì, si può trovare. E comunque, in Chissà se i pesci piangono, pubblicato da Einaudi in quegli anni, siamo negli anni 70, anche lì, per dire che cos'è l'autoanalisi popolare, la maieutica, perché molti confondono questo con le cose che sono venute dopo, che sono, diciamo, dei metodi relazionali, ma per carità importantissimi, però di altra natura. Qui stiamo parlando di un metodo coeducativo adatto alle comunità. Non è il sistema della facilitazione, non è l'educatore maieuta è educatore maieuta per un po', un gruppo diventa un gruppo maieutico nel corso degli anni ed è finalizzato all'evoluzione sociale. Danilo Dolci è uno scienziato sociale, è uno che sperimenta come la democrazia può essere esercitata in maniera diretta, dal basso. Non è semplicemente un metodo didattico, come spesso viene confuso. Il metodo didattico è un'altra cosa. Chiaramente ci sono dei metodi didattici, io lavoro nella scuola, che attingono a piene mani, io cerco di farlo a scuola, alla maieutica di Danilo Dolci, ma la maieutica di Danilo Dolci ha un enorme respiro, che è questo. Perché? Perché in Sicilia in quegli anni si sperimenta come la non violenza può diventare un sistema di decisione a livello locale e anche a livello nazionale. Cioè, sì, bisogna ricostruire la democrazia. È finita la Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo concepito e varato la grande Costituzione del 48. Come facciamo a far sì che la democrazia sia qualcosa di sostanziale? Ecco, la Sicilia di quegli anni, la Sicilia occidentale di quegli anni, è un laboratorio a livello internazionale della sperimentazione della non violenza sul campo. C'è un'attenzione enorme, per esempio, di Aldo Capitini su Danilo Dolci, perché che Danilo Dolci appare come colui che sperimenta nel concreto, giorno per giorno, la democrazia diretta sul territorio. Anche qui, la democrazia diretta non significa, non sono tecniche, perché tutti partecipino al voto. No, è qualcosa ancora di più. Come far sì che ciascuno diventi cittadino a pieno titolo e prenda parte, ma dal più piccolo al più grande, prenda parte al processo decisionale, politico, locale e su scala più ampia. Quindi la Sicilia in quegli anni è territorio di un esperimento pilota a livello internazionale. Le più grandi personalità, io sono stato al centro, cioè sono stato lì al centro studi dove Danilo aveva il suo studio e quindi tutte le sue carte, le sue cose, ed era incredibile, lui non c'era più, sfogliavo e trovavo l'epistolario di Danilo Dolci con Chomsky, l'epistolario di Danilo Dolci con Freire, l'epistolario di Danilo Dolci con Bertrand Russell. Potrei continuare così a lungo, ma tutte le più grandi menti a livello internazionale non allineate, questi due grandi poli che stavano cercando una modalità nuova, ancora inedita, erano attenti a quello che succedeva in Sicilia e spesso andavano in Sicilia, così come Aldous Huxley, ma anche Pasolini, Gassman, tantissimi sono stati in Sicilia, perché la Sicilia di quegli anni era un luogo di sperimentazione sociale. Ecco, ho fatto questo preambolo, che è sempre poco, per diciamo contestualizzare la maieutica di Danilo Dolci. Io l'ho conosciuto appunto negli ultimi anni, lui lavorava molto nelle scuole. Torniamo a Barga, arriva il suo turno e lui dice: io mi chiamo Danilo Dolci, dice di sé, non faccio lezioni, pongo domande. Ecco, allora noi iniziamo così, perché la domanda che lui pone in quel contesto è una domanda che ha orientato tutta la sua ricerca e che, detta così, ora come la diremo, può apparire banale, ma vi assicuro che banale non è. Assolutamente no. La sua poesia e la sua ricerca per tutta la vita si è mossa intorno a questa domanda. Lui, anche in quel contesto, soprattutto quando era all'inizio, chiedeva alle persone di riflettere su due verbi per eliminare, poi ho letto tra le sue carte, la confusione mentale che genera. Diciamo che è generata da una pratica del linguaggio veicolata anche nelle scuole. Allora lui chiede: cos'è trasmettere? E poi chiede, ascolta tutti, cos'è comunicare? Queste sono le due parole. Ora, io inizierò con voi proprio nel modo di Danilo, perché iniziamo facendo un giro e poi entriamo nel vivo del laboratorio. Vi darò qualche... lui non lo faceva, io vi darò qualche regola di interazione. Danilo non lo faceva, non so come mai, ma il miracolo della comunicazione maieutica con Danilo si stabiliva senza che lui dettasse alcuna regola. Infatti lui non parlava di metodo, lui parlava di arte. Lui parlava dell'arte, della maieutica reciproca. Vi dico perché la parola reciproca. Perché era lui che iniziava a porre interrogativi, interrogativi con valenza maieutica. La maieutica, per chi, sono sicuro che tutti voi sapete, maieutica è parola greca, ha a che fare con l'arte della levatrice, che aiuta a partorire. Ecco, qui siamo nell'ambito chiaramente del parto di idee, che viene però da una mente collettiva, che normalmente nelle scuole viene sprecata. la mente, l'intelligenza collettiva nelle scuole, niente, non viene fatta crescere, anzi, viene mortificata. Allora, cominciamo così, facciamo un giro, cominciamo da lei, facciamo un giro e ciascuno dice di sé, facciamo conto di essere sempre bambini, che non è male, io chi sono, io chi voglio diventare, qual è il mio sogno, dite le parole che vi vengono in mente, facciamo in maniera rapida, facciamo un giro, ma se avete bisogno di più tempo prendete un pochino più di tempo. Prego. Sono Mattia. Per il sogno, cosa voglio diventare? Dico le parole. Quello che vuoi. Riconciliazione, riconnessione e rigenerazione. Io sono Anna, sono in ricerca, vorrei diventare una buona traduttrice e il mio sogno è contribuire a migliorare la vita. Grazie. Sì. Io sono Alessandra e cosa voglio diventare? Qual è il mio sogno? Voglio diventare una brava persona. Voglio essere... Chissà come sei cattiva ora. No, no. Si vede, si vede. È anche un po' un'educatrice forse. Un po'? Un'educatrice. Però per dire, per essere poi una brava educatrice devo anche essere, devo essere una brava persona. Certo. Sono buona. Fatichino. Prego. Io sono Olivier e voglio diventare più connesso con tutti gli altri. E il mio sogno è un mondo dove le persone siano felici. Bello. Sì. Io sono Irene. Sono un'educatrice ambientale o alla sostenibilità e voglio diventare, che è la stessa cosa del mio sogno, libera. Ok, grazie. Io sono Marco, voglio diventare un mix tra un albero e un uccello. Qual è il mio sogno? Che si ristabilisca un equilibrio con la natura. Se vi va, dite anche cosa fate ora. Tu cosa fai? Io lavoro con legno, provo a fare anch'io un po'... Ecco l'albero. E provo anch'io a valorizzare l'intelligenza collettiva nel fare le cose. Okay, io sono Caterina, lavoro da un commercialista, quindi non c'entro niente, però per mantenermi, ma il mio sogno è quello che mi piace fare, lavorare con bambini sui temi della non violenza e riprendere sempre di più la connessione del mio corpo con le emozioni, in modo da saperle gestire e incanalarle in una direzione positiva che fa stare bene sia me che tutte le persone che vengono in contatto con me. Voglio diventare una brava educatrice con mia figlia e basta. No, basta. Io prima ho sentito che ti occupi di teatro dell'oppresso. Sì, sì, sì, sì. Ti pare poco? Okay, e questo, il recupero del corpo con le emozioni per poter cambiare quello che non mi piace. Certo, grazie. Caterina, prego. Io sono Elisa, sono una docente, un'insegnante di infanzia, una scuola di infanzia, e vorrei diventare una brava insegnante, perché non basta passare un concorso per essere una brava insegnante. Mi trovo quotidianamente in confronto con i bambini, ma molto con me stessa, un po' mi sento vicina a quello che ha detto Caterina, e quindi superare quello che, cioè, il negativo che sento tanto anche di umore, di emozioni, di conflitto vissuto male, ecco, riuscire a trovare delle chiavi di trasformazione positiva e poterle trasmettere ai bambini. È un'impresa grossa, però quello che vorrei diventare, questo è il mio sogno. Così, appena l'hai detto, è stato, ho pensato ai paesi del nord Europa, la Finlandia, la Svezia, mi piacerebbe visitarli, non l'ho mai visto, mi piacerebbe calarmici dentro e immagino questi verdi, questi blu intensi, non so, mi piacerebbe fare un bel viaggio. Ok, grazie. Sì. Sono Pina. Pina? Pina. Pina. Come mia madre? Come? Mia madre si chiama Pina. Sì. Sì, sì. Sono pensionata delle ferrovie, da 3 anni faccio parte di un gruppo a Ferra Sabina, il gusto della gentilezza, comunicazione non violenta. Lo ridici un'altra volta? Lo ridici un'altra volta? Non capivo bene. Il gruppo del gusto della gentilezza si è formato 3 anni fa, stiamo facendo il corso, abbiamo affrontato anche la PATFOR, già lo continuiamo a fare, e come gruppo ci stiamo allargando sul territorio, facciamo corsi, fanno corsi veramente, io continuo a ripetere perché voglio apprendere bene. E sento necessità di essere più connessa con me stessa, per essere più connessa con gli altri, e per una, specialmente per la felicità collettiva, per la libertà collettiva che riguarda pure la natura, la giustizia sociale. E premetto che stasera sono particolarmente commossa perché Danilo, io ho 70 anni quest'anno, Danilo Dolci, me ne parlava mio padre che non aveva... né cultura politica... né altro, e mi parlava di questa persona, e io ero piccola, quindi non sapevo se me ne parlava bene o male, e già mi parlava di mafia, e quindi per me stasera è chiudere un grande percepio, perché non ho avuto mai occasione di approfondirlo, quindi è un'occasione. Grazie. Io sono Afri, pensionata alto, mi hanno detto le ferrovie, sono dell'altro, tanto per dire. E, no, io voglio essere più libera, perché più delle volte mi faccio condizionare dai doveri e non dai diritti. Perciò vorrei essere più connessa a me stessa, soprattutto ho bisogno di connettermi a me stessa, perché quando sono connessa a me stessa, sono connessa anche con gli altri, perché il mio scopo finale è che tutti siano felici. Sì, grazie. Io sono Simona, sono operatore sociosanitario, sto facendo anche un corso di counseling. Penso di essere, cioè sono una persona curiosa, anche perché sono fan, anche per me sono argomenti nuovi. Vorrei diventare ancora un po' più curiosa, nel senso, però verso di me, cioè quindi anche io ho necessità di conoscere meglio me stessa. E il sogno è essere più serena, meno condizionata, dicevi, perché comunque non è scontato riuscire a tenere anche una volta che si trova, una volta in connessione, riuscire a tenerla, perché siamo condizionati da tantissime cose, e poi riuscire a essere, diventare in grado di trasmettere qualcosa di questo. Ok, grazie. Sono Leonardo, quante belle cose. E sono Leonardo, sempre fatto l'architetto, però ho niente, ma insomma c'è più il lavoro poi a una certa età. E cosa voglio diventare? Voglio diventare, cioè, traduco, cose buone. Sono aperta a diventare qualsiasi cosa. L'importante è fare esperienze, no? Conoscere, ripeto, certo, positività, non negatività. Il mio sogno è vedere un mondo meno violento, mi sembra, insomma, se sogna di tutti, sta violenza. Chi schiaccia, no? Un mondo, questo è un mondo che schiaccia. Mi verrebbe da dire da uomo, un mondo tanto più donna. Scusate, non è possibile verso le donne. Grazie. Grazie a te Leonardo. Sai, anche Danilo, architetto di formazione, lui lasciò alla fine, cioè, aveva già compilato la tesi, però non si è mai laureato. Ha confidato al suo collaboratore Franco Alasia, che gli chiedeva: ma come mai tu non hai mai fatto poi veramente l'architetto? Lui dice: no, no, io ho fatto l'architetto. Ha costruito tanto. Dice, per me l'architetto non significava, cioè l'idea di costruire case per i ricchi, disse ad Alasia, che me lo raccontò con le lacrime agli occhi, dice non faceva per me, per cui se ne andò subito in Sicilia, che aveva visitato perché il padre ferroviere lavorava come capostazione, gli capitò un lavoro in Sicilia a Trappeto, tra Trappeto e Partinico, e lui a 16enne visitò la Sicilia e gli rimase qui, appena potuto è andato. Ha passato 2 anni da Don Bosco, come si chiama la comunità quella di Don Bosco? No, la comunità di Don Bosco la famiglia di Monte. E quindi anche lui è architetto. Faceva la sua, il suo modo di essere architetto era l'urbanistica in particolare, quindi la costruzione della città. Ma lui mi sembra ha fatto un villaggio anche in Sicilia, in Spagna, o comunque ha partecipato. Borgo di Dio, sì, ha sì. Ha partecipato, no? Qualcosa del genere. Borgo di Dio era un centro, sì. Dicevo prima. Sbaglio. No, non sbaglia. Lui per la non violenza vinse il premio Lenin, tutte le risorse finanziarie che impiegò per ampliare quello che era questo luogo in cui è andato a vivere, che si chiamava Borgo di Dio, ed era una struttura ricettiva dove si potevano fare convegni, eccetera. Di recente è stata restaurata, che era in stato d'abbandono. Sì, ma poi proprio visitando il Borgo di Dio ce l'ho conservata a casa, diverse copie ciclostilate di un manoscritto grosso così, intitolato La città territorio, con grandissimi nomi di architetti in cui pensavano a una forma, diciamo, nuova del vivere comune, del vivere in comunità, la città territorio. Però insomma ci porta lontano. Prego signora. Io sono Raffaella. Allora, a me quello che mi preme tantissimo è capire, siccome io ho una spinta molto forte alla condivisione, però purtroppo trovo sempre il conflitto. Quindi il conflitto è il mio pallino, cioè io voglio arrivare a capire meglio come possiamo vivere, condividere e progredire in tutto lavorando, trasformando il conflitto. E questo fin da quando sono piccolissimi, io ho 4 nipoti piccolissimi, da quando quindi siamo, proprio vorrei partire da lì, e questo è uno dei miei sogni, poi ce ne sono tanti che lasciamo stare, però questo è quello che mi prende. Sì, le dico questo, che Danilo ha lavorato sul conflitto, diceva che spesso il conflitto è inevitabile, va esercitato in maniera non violenta, quello che tutti... Ma per lui era più importante prevenire il conflitto, cioè creare quelle situazioni. Per esempio, faccio un esempio per intenderci. Se io costruisco una scuola fatta male, i conflitti saranno all'ordine del giorno e diventeranno, appunto, provocheranno comportamenti violenti da ambo le parti. Tamponare è difficile. in questi casi ci vuole una bisogna vedere quali sono le sorgenti del conflitto ed eliminare alla radice, perché lì la questione è più strutturale. Non si può lavorare soltanto sulla superficie, sui sintomi, bisogna lavorare invece sulle cause. Quindi lui diceva, appunto, a proposito della scuola, il centro educativo di Mirto previene il conflitto. Giusto. Prego. Io sono Agata, sono una docente di scuola primaria e il mio sogno è quello di continuare sempre a crescere, crescere con i miei ragazzi, crescere attraverso di loro, perché sono loro che poi in realtà nella vita quotidiana mi danno tantissimo, sono loro che mi danno l'indirizzo verso cui andare, perché molte volte si arriva la mattina con un'idea, poi si esce da scuola e invece si è fatto tutto un altro percorso. Il mio sogno appunto è, oltre a quello che continuare a crescere con loro e attraverso di loro, è di aiutarli in questo cammino di crescita che è molto difficile, aiutarli appunto come sentivo un sentire comune diffuso qua, nel vivere appunto, imparare a vivere, a gestire i conflitti che comunque, come dicevi te, ci saranno, attraverso un porsi in maniera diversa, in una relazione diversa, mai conflittuale, ma che punti verso un risvolto appunto non violento, e soprattutto aiutarli a crescere liberi, liberi da tanti condizionamenti, cittadini consapevoli, a partire da ora che sono piccoli e che invece hanno pensieri grandi, e quindi cominciare a, con loro a crescere, a riflettere su. Grazie. Io sono Annalisa e sono un architetto anch'io, è un po' pentita. Architetto pentito non te lo vuoi, sì. Nel senso che poi vabbè, ho trovato il mio modo di esercitare la professione come lavoro di animazione di comunità. Io mi occupo di gestione di processi partecipativi e il mio sogno è di fare il mio lavoro in un modo diverso, perché lo faccio all'interno di un sistema che ha troppi vincoli e che è troppo paralizzante, perché io lavoro spesso su incarichi della pubblica amministrazione all'interno di contesti dove devo mediare tra, diciamo, gli abitanti, le istituzioni. Sono un po' stufa di farlo, diciamo, nel modo in cui l'ho fatto finora, per esigenze poi di sussistenza. Mi piacerebbe poter avere, diciamo, una base di sussistenza per fare il mio lavoro in un modo più libero. E il mio sogno è di rispettare di più il mio corpo facendo il mio lavoro, di riuscire a prendermi anche le mie pause. Sì, non è banale. Dunque, di me, di tutto questo, io mi chiamo Francesco, lavoro nella scuola, sono insegnante di matematica e fisica, e attualmente lavoro al liceo artistico, beh, da un po' di anni ormai, al liceo artistico di Pisa. E da tempo sperimento la maieutica, non mi è mai riuscito a farla 2 anni di seguito allo stesso modo. Appunto, c'è verso, ogni anno cambio qualcosa, e come dicevi tu, Agata, prima, parto con un'idea ma in corso d'opera cambio, proprio perché il metodo, sì, l'idea del metodo è importante, ma più importante è ascoltare, cioè sentire le reazioni da parte degli studenti. Lo studente etimologicamente significa colui che desidera. Questa è una cosa che non va dimenticata. Io mi accorgo che meno intervengo, più loro riescono a esprimersi e più ha successo, cioè più ritengo di aver avuto successo. Più gli studenti riescono a esprimersi ascoltandosi reciprocamente, meno ho parlato io e più ha funzionato il tutto. È esattamente l'opposto di quello che accade nelle lezioni, in cui l'insegnante parla, ogni tanto viene fuori qualche retorico, avete nulla da chiedere, e poi gli si chiede di ripetere il più fedelmente possibile. E la cosa più mortificante è che accade sempre, praticamente sempre, se non che c'è stata una grande riflessione intorno a questo, che è partita per fortuna negli anni 60, per esempio il movimento di cooperazione educativa, per nominarne uno, che ha cercato di ribaltare questo stato di cose. Quindi sperimento la maieutica, collaboro come membro esecutivo al Comitato Nazionale No Guerra Non Nato, altro mi occupo molto intensamente da qualche anno a questa parte di economia, ho cercato di capire cosa è successo in Italia, perché l'Italia di prima degli anni Ottanta era un'Italia ricca che progrediva non solo economicamente ma civilmente e socialmente. C'è stata una interruzione traumatica per tutti noi, di cui moltissimi non si sono assolutamente resi conto. È iniziata negli anni Ottanta un cambiamento radicale che ci sta immiserendo socialmente, economicamente, civilmente. Quindi, ascoltando altri più bravi di me, ho capito che lì c'era molto da indagare. Mi sono dedicato anima e corpo per 7 anni a capire l'economia, e in particolare l'economia italiana. Mi è venuto fuori un libro che si chiama Ricchezza fittizia, povertà artificiosa, ma pubblicato l'ETS. E all'inizio pensavo che, cioè, questo è in piena continuità con Danilo Dolci. Ho detto, Danilo Dolci organizza in Sicilia un convegno. Scusa, dici tutto perché interessa molto anche a me. Abbiamo fatto un laboratorio proprio a primavera su questo tema con Francesco. Sull'economia? Sì, no, abbiamo fatto un laboratorio su un tema ristretto che era: che cos'è la moneta? Però era propedeutico, volevamo tornare sull'argomento. Il libro si chiama Ricchezza fittizia, povertà artificiosa. E ci sei Francesca di cognome? Cappello. Cappello, l'avevi detto all'inizio. Sì, perché l'Italia ha subito, diciamo, un cambiamento radicale e noi siamo ancora all'interno. Subiamo questo grande cambiamento, abbiamo davanti agli occhi tutti i giorni gli effetti di questo cambiamento radicale che è intervenuto a partire dagli anni 80, dalla fine degli anni 70, poi negli anni 80, e si è sviluppato nel corso del tempo. Ma sarebbe troppo lungo parlarne. Dicevo però che questo è in piena continuità con il lavoro di Dolci in Sicilia. Quando organizza il convegno internazionale sulla piena occupazione, lui ha in mente questo, cioè un'economia che porti felicità diffusa tra le persone. Allora, torniamo al nostro tema. La domanda che vi faccio è appunto, la prima è: che cos'è trasmettere? Ma ve la faccio pensando anche a quell'altra, a quell'altro verbo, comunicare. Trasmettere e comunicare vengono utilizzati come sinonimi. Danilo invita a distinguere. E vi chiedo, appunto, nella vostra pratica linguistica, riuscite a distinguerli e in che modo? Trasmettere è equivalente a comunicare? No. Ecco. Questa è la domanda che vi faccio, la domanda di partenza, perché lui, Danilo, lavora su questo tutta la vita. Quindi di sicuro non esauriremo nell'ambito di un laboratorio tutto quello che può venire fuori. Io ho imparato moltissimo da questo discrimine in qualsiasi pratica. Allora, vi chiedo, le regole che io do sono essenziali, poi eventualmente mi permetto come coordinatore del laboratorio di intervenire, insomma, se chiedendo a qualcuno, non so, per esempio, se qualcuno eccede nel parlare, ma le persone sanno autoregolarsi, in generale tutti sanno autoregolarsi, soprattutto se ci si ricontestualizza. Io per primo, inserito in un altro contesto, mi comporto male. Ecco, allora, prima vi chiedo che cos'è trasmettere, che cos'è comunicare, ma l'unica raccomandazione che faccio a ciascuno è questa, la faccio ogni mattina ai miei studenti, chiedo loro. Prima gli chiedo che differenza c'è tra sentire ed ascoltare, e loro la individuano subito, perché dicono, ah, si può sentire, ma senza ascoltare. E lo sanno, questo lo sanno, no? E poi gli dico, stai attentissimo a quello che sta dicendo il tuo compagno o la tua compagna. Stai attentissimo, non per educazione, vi dico, anche per educazione. Ma dico, stai attentissimo a quello che ti fa passare per la mente. Questo è l'invito che faccio a voi. Questo tutti lo sappiamo. Quando un altro parla, la nostra mente si attiva. È un movimento continuo. Noi ascoltiamo l'altro che parla e la nostra mente è attraversata da associazioni di idee con quello che sta dicendo l'altro. Interrogativi, desiderio di integrare quello che sta dicendo l'altro. Sta dicendo questo, ma guarda, mi viene in mente questo, lo vorrei subito dire. Oppure gli vengono in mente dubbi, cioè, ma sarà come sta dicendo lui? Non sono convinto, non mi convince. Sono d'accordo, non sono d'accordo. Accordo è un termine musicale, non a caso. Altre domande? Io ho in mente una domanda, mi sta chiedendo di pensare a cos'è trasmettere, me ne vengono in mente altre. Quindi tutto questo movimento vi chiedo di focalizzarlo e di prendere un piccolo appunto sul vostro quaderno. Ascoltiamo, ascolteremo lei, lui, eccetera. Vi chiedo di ascoltare con molta attenzione il flusso di pensieri che attraversa la vostra mente, focalizzarlo, non disperderlo, non sprecarlo. Questo è essenziale, perché altrimenti accade una cosa. Ciascuno dice quello che ha in mente, lo butta lì e poi se ne va. Lo butta lì e poi se ne va come fa sempre. E questo ci interessa? Sì, ci interessa, ma è solo una somma. La maieutica non è una somma di quello che sa lei già, di quello che sa lei, lui e così via. No. La maieutica è altro. È anche il prodotto dell'interazione collettiva del gruppo in quel momento. Quindi questa è la regola essenziale. Poi le altre, ciascuno prenda il suo tempo, sintonizzandosi con il tempo di tutti, eccetera, eccetera, questo verranno da sé. Quindi la prima domanda è che cos'è trasmettere? Ora, Danilo faceva, proprio quando un cerchio maieutico era completamente nuovo, a volte lui chiedeva proprio uno per uno, e faceva proprio fare il giro. Magari noi possiamo anche fare così, però siamo grandi e voi avete una grande esperienza di partecipazione a rischi. Quindi io vi chiedo soltanto di riflettere per conto vostro, se volete, anche questo lo dico ai miei studenti, pensa per conto tuo, poi comincia a rivolgerti a chi hai accanto e comincia il piccolo gruppo a sentire cosa hanno pensato gli altri. Dopodiché cominceremo ad ascoltarci in gruppo, nel gruppo più grande. Ecco, questo è quello che facciamo. Quindi vi invito a pensare cos'è trasmettere, avendo l'idea anche del comunicare. Che cos'è comunicare? Perché dobbiamo imparare a distinguerli. E vedremo poi cosa viene fuori. Questa è la cosa. Se vi vengono in mente due parole e basta, scrivete due parole e basta. Dopodiché, su entrambi, quindi. Su entrambi, sì, su entrambi, facciamo su entrambi. Scusa, Federico, attenti a ciò che passa nella mia non dispettere, non dispettare. Sì, quando sta parlando un altro. Quando l'altro parla, e allora tu ti appunti se non hai una memoria. Certo, sì, sì, uno prende degli appunti. Prendi. Sì. Cos'hai detto, scusa Francesco, di scrivere? Ora, di pensare a queste due parole, trasmettere e comunicare, prenderemo proprio 2-3 minuti, sì, poco. Sì. E così, cioè, senza l'idea avrò detto giusto, avrò detto sbagliato, cioè, non è questo. Sì, scusa, è tirar fuori quello che uno ha in sé, intorno a queste due parole, okay. Trasmettere e comunicare. Sì, sì, sì. Allora, forse possiamo cominciare. E vediamo chi vuole cominciare a dire qualcosa. No, avevo capito male. Prima avevi detto... No, non faccio così. No. Ok. No, che... Chi vuole chiedere la parola, diciamo. Con qualcuno accanto, no? Ah sì, sì, quello volendo. Ah, se vuoi no, parlare. Parliamo tutti. Certo. Sì, se volete. Questo era per dire che a scuola lo faccio. A scuola con gli studenti faccio un po' così. Ora qui siamo. Non siamo tantissimi. Diciamo a scuola chiedo loro di parlare. Sono io che dico, ragazzi, parlate. Parlate con chi avete vicino. Chiaramente il tema è in discussione, perché mi accorgo che è importante. Allora, chi... Se vuoi posso cominciare. Prego, prego. Perché a me è venuto subito in mente che sì. trasmettere i valori, perché ho dovuto mettere una finale a questa trasmissione. Quindi trasmettere, ho pensato, è legato a ciò che si è. Uno cerca di trasmettere quello che è davvero. Invece comunicare è più subdolino, cioè è più convincere della volontà dei nostri valori e delle nostre convinzioni, cioè cercare di in qualche modo forse forzare, in qualche modo è un po' manipolatorio il comunicare, mentre trasmettere io lo vedo come una cosa che viene spontanea. Se tu sei una persona, diciamo, per bene, questo lo trasmetti. Ok. Allora, vi dico questo, che io intervengo facendo domande o facendo, mettendo anche in dubbio quello che l'altro dice. Questo lo faccio spesso, faccio domande o considerazioni o a volte mi permetto di reinterpretare quello che è stato detto. Per esempio, trasmettere valori, quindi tu dici che comunicare valori è manipolatorio, lo senti manipolatorio. Sì. Un'altra domanda è, avete mai pensato all'etimologia della parola? Etimo, a sua volta, l'etimo di etimo è radice. Etimo significa radice. Qual è il significato primo della parola? Quello antico. Quindi abbiamo pensato al significato antico della parola trasmettere e della parola comunicare. Ok, grazie. Allora, anche qui le mani alzate, vi dico come faccio io a scuola, le mani alzate, do sempre la parola a chi ancora non ha parlato. Allora, qui siamo in un momento in cui chiaramente accade questo nei gruppi, anzi poi farò quest'altra domanda che attiene al trasmettere, al comunicare. Ed è questa. Cosa succede nei gruppi di discussione di positivo o molto spesso di negativo? Ma questo ci arriveremo dopo. Per farvi un esempio, l'incontinenza a parlare. Oppure qualcuno potrebbe dire, prendo la parola e non la mollo più. Ok, allora prego. Vabbè, cioè è curioso, volevo fare subito dopo lei, perché è curioso come è un po' il contrario. Cioè, io ti ho detto distinto, senza sentendo un po', senza analisi di grosse cose, che trasmettere da una cosa o da un essere all'altro, portare un'informazione, mettersi in collegamento in modo più tecnico. Io l'ho sentito così. Invece il comunicare, cioè al contrario un po' di Raffaella, che è mia carissima amica e ne sono contento, ma comunque che vuol dire? Che vuol dire? Comunicare invece implica, mi ha sentito come una comunione, condivisione, un mettere in comune, non la semplice informazione, insomma una partecipazione empatica. Allora, dico quanto strano, sì. Grazie, Leonardo. Allora, c'erano altre mani alzate da questa parte. Io volevo accodare con Leonardo. Caterina, vero? Caterina. Sì, che in effetti anch'io trasmettere come se la sento una forzatura, quindi come trasmissione di un'informazione oppure di un comando, di una regola, più in maniera tra virgolette, negativa, che può essere anche positiva in realtà. Mentre il comunicare è una condivisione, comma vuol dire anche comunione, no? Quindi condividere, empatia, dialogare in parità, sempre un po' in sintonia, ecco, questo. Grazie, Caterina. Ma per me è neutro trasmettere, io sono uscita da un messaggio, da una fonte, persona o strumento, cioè perché mi viene in mente subito la televisione, cioè le trasmissioni, alla televisione, la radio, cioè le trasmissioni. Trasmettere in genere l'immagine che mi sono fatta anche io, che quando trasmetti da insegnante, da educatore, tu puoi avere davanti chiunque, in teoria non ti interessa nemmeno molto quello che c'è dentro o come arriva ciò che trasmetti, tu trasmetti, poi magari sì, valuti. Comunicare, mi è venuto in mente Lisa, comunicazione, che guardo lei perché abbiamo fatto questa scuola che si chiama Globalità dei Linguaggi, Stefania Guerralisi, la chiama così, comunicazione. E io mi ci ritrovo, cioè, quindi c'è una comunione, un'azione unica. E ho scritto, avviene tra due o più persone, è un'azione bidirezionale, ci vuole arte, sapere esprimere il proprio punto di vista, saper ascoltare, comporta interazioni. Però sono d'accordo che è manipolatrice spesso e volentieri la comunicazione. Ci sono tanti modi di comunicare, c'è un contenuto e un imballaggio, questo è quello su cui ci ha fatto riflettere tanto anche Pat, nell'imballaggio c'è il tono, la postura e conta più del contenuto. Io questo sinceramente non lo sapevo, le prime volte che ho fatto degli incontri sulla comunicazione, tipo l'imballaggio conta, non so, il 70%, una roba così, forse di più. Poi nella mia vita, come dunque Danilo diceva, c'è qui una radio, è accesa e la radio parla, noi tutti ce ne andiamo, poi domandava a tutti che fa la radio, trasmette, continua a parlare, questo diceva qualcuno è nota l'etimologia di comunicare? Sì. Prego. Comunis, dono comune, come comunità. Facciamo comunicando, crea un dono, insieme. Credo. Sì, sì, no, è questa. Credito? Cum e munis. E munis è la parola dono, sì. L'origine è latina. Del latina. Sì. Sì, trasmettere, l'etimologia di trasmettere, è bene mettere in campo. Trasmettere? Sì, trasmettere, quindi. Mandare attraverso. Sì, mandare attraverso. Sì. E diceva Irene, è importantissimo, la comunicazione è bidirezionale. La comunicazione è bidirezionale. Ora, qui pongo un altro interrogativo. Se due persone trasmettono, una in un verso e una nell'altra, è bidirezionale, ma è comunicazione necessariamente? No. Per esempio, siamo al telefono. Sono al telefono. Non so se vi capita questa situazione. Entrambi parlano senza ascoltarsi. È bidirezionale, ma manca qualcosa per la comunicazione. D'accordo? L'empatia. Il dono. Ecco, allora, lei parlando, Anna, sì, Anna, ha messo... Ci sono tante parole, infatti lei ne ha nominata un'altra, comunità. Comunità, questa radice antica, perché la chiamiamo comunità? La comunità? Vedete che c'è qui dentro, c'è anche l'economia e l'organizzazione sociale delle persone. C'è un modello economico dentro la parola. Allora, andiamo avanti. C'è l'organizzazione? Eh sì. Certo. Perché all'inizio è così. No, non perché all'inizio è così, perché non può esserci economia senza dono. È più radicale. E non può esserci comunità, certo, senza quella che lei chiama la, si può anche, condivisione. Non può esserci comunità. Se prima c'era comunità e sparisce l'economia del dono, c'è lo sgretolamento della comunità, quella a cui assistiamo oggi. Ma l'economia tipologicamente è attaccata alla casa, no? Certo. Come, scusa, per parte della casa. Sì, la casa nel senso globale della parola, che non è solo la casa come oggetto fisico, ma la casa come oggetto mentale. Sì. Il gruppo, il clan nell'economia, certo, no? O anche quella che chiamiamo la casa comune. Sì. Fino ad arrivare adesso a un concetto, appunto, di bene comune, che invece è un concetto più moderno. Sì. Beh, non così moderno. Cioè, c'è un'origine molto antica, ma è in realtà, sì, la parola bene comune, sì, la parola moderna. Sì. Altri allora su trasmettere. Prego. Ascoltando gli altri mi sono, cioè, ho sovvertito quello che pensavo, ho sovvertito, ho visto in un altro modo le cose, nel senso che per me trasmettere è un po' come, ora mi sembra che emerga il comunicato, nel senso che per me trasmettere è riuscire, ora penso all'insegnamento, riuscire proprio a trasmettere qualcosa, cioè da me all'altro, vedo proprio un veicolo. Quindi qualcosa di unidirezionale. Da, sì, me all'altro. Sì, unidirezionale, però come ho scritto non è un qualcosa di morto, tra virgolette, cioè è come fosse un seme, cioè io ti trasmetto quello che io sento e in te in qualche modo può crescere questo che sento, cioè un po' quello che poi mi è successo, che è successo a me in alcuni insegnanti che mi hanno trasmesso delle cose che poi si sono sviluppate, non lo leggo tanto alla comunicazione, mentre la comunicazione la leggo più da un punto di vista tecnico, cioè il comunicare, io ti comunico questa informazione perché ti può essere utile, anche se poi lo leggo anche aspetto più legato al corpo, nel senso che io ti comunico emozione, bene? Cioè vedo che insomma in qualche modo sono più vicina di quello che però il trasmettere non lo vedo come, ecco, per dire la radio che trasmette cose, un segnale che mi arriva, ecco, sì, un input. Chiedo questo, sono molto drastico. Sì. Un dittatore è interessato a sapere cosa penso io, cosa pensi tu, cosa pensiamo noi, un dittatore? Un dittatore trasmette o è interessato alla comunicazione? Alla reciprocità del dolore. Basta. È interessato un dittatore, un comandante. Un comandante, diciamo, nel linguaggio, comunica gli ordini. Chi li riceve gli ordini? Può discuterli? No, credo. Dentro di sé, sì. Comunque sì, c'è una... Qui lei prima, Irene, ha detto. Porto in evidenza quello che ha detto Irene prima. Ha detto la trasmissione può essere anche neutra. Se vi girate lì e guardate, potete leggere, ci sta trasmettendo qualsiasi delle informazioni. C'è niente di male? No. Certo che no. Io sono a lezione, sono in un convegno. Ci sono 100 persone, 200 persone, parlo per 2 ore. Per 2 ore ininterrottamente sto parlando. Alla fine dico, c'è qualcuno che ha una domanda? Gli ultimi 5 minuti. Ho trasmesso o ero interessato alla comunicazione con tutti gli altri? Cosa ho fatto? io ho un bimbo che è mio figlio e lui mi cresce accanto tutti i giorni. Io gli dico cosa deve fare e non fare. Non sono assolutamente interessato a chi è lui, a cosa pensa, a scoprirlo, a capire. Posso vedere se ha gli occhi azzurri, gli occhi verdi o gli occhi marroni, ma non sono interessato. Sono interessato a dargli delle regole di comportamento. Dico, per il suo bene. Questa la chiamo anche educazione, e dico, sì, è un po' rigida. Appena sbaglia, lo rimetto sui binari. Sto trasmettendo o sto comunicando? Trasmettendo, secondo me. Sentiamoci la mano. Ma io, con lo stesso Taurus, per me non si può trasmettere senza coniare. Perché io, se voglio trasmettere qualcosa, o lo faccio nel linguaggio di corpo, allora uno attraverso quello che, come mi muovo, come gesticolo, tutta una serie di cose, può prendere una trasmissione da parte mia. Ma io, se voglio trasmettere qualcosa, non posso farlo senza comunicare. Comunicare per me vuol dire ascoltare l'altro e farmi ascoltare. Però che comunicazione è per me. Poi, grazie anche, non sia nella cosa giusta, però per me comunicare è questo. E trasmettere di conseguenza. Okay. Io sono un posto? Prego. Sono molto condizionata nel mio pensare a questi due verbi, perché mi sento molto vincolata dalla mia professione, no? Cioè faccio molto una rigida distinzione, nel senso che associo la trasmissione alla lezione frontale che mi fa in questo momento, soprattutto in questo momento storico, mi fa paura, non mi ci ritrovo più, non riesco più a concordare con le persone che ancora basano esclusivamente la loro didattica su una trasmissività, secondo me. E appunto per questo che io in questo periodo, infatti, mi sto, questo che è il mio punto di vista, è questo che mi spinge ad approfondire una metodologia diversa di comunicazione, cioè io vorrei essere una comunicatrice e non una trasmittente nei confronti dei miei alunni, perché associo il concetto di trasmissione a una relazione assolutamente passiva. Però probabilmente questa è una deformazione del mio modo di vedere l'insegnamento, non so. Prego. Io sono rimasta super colpita dalla prima riflessione che sono stata fatta, perché poi in realtà quella da cui partivo io era un po' vicino a quello che diceva Irene. Trasmissione, così come la sua prima associazione mentale è stata ai valori, la mia è stata la trasmissione radio a quella televisiva, in cui non c'è feedback, non c'è interesse. Non si può interrompere, non si può chiedere nulla. Esatto, e quindi avevo pensato a questa dimensione, a questa diversità di direzione, e quindi monodirezionale la trasmissione, multidirezionale invece la comunicazione, così come altro elemento che avevo segnato era io stesso, quando ho interesse cioè a comunicare con qualcuno, quindi anche non riesco, dopo un po', se vedo che non ricevo del feedback, cioè la persona con cui sto comunicando, non riesco più ad andare avanti, cioè ho bisogno necessariamente, quindi anche questa questione del riscontro, del poter leggere è fondamentale. E invece, ad esempio, per quanto riguarda la questione valoriale ed emotiva, ad esempio i verbi che mi verrebbero in mente o i termini che mi verrebbero in mente da associare a quelli sono più legati alla dimensione della condivisione e della testimonianza per i valori, perché i valori appunto magari, cioè non penso che si debbano in qualche modo trasmettere come imposizione. Però questa è la direzione semplicemente delle mie associazioni mentali, ma che in qualche modo si possano mettere in mezzo testimoniando quello che si è, e poi... Sì, quando dici questo forse ti riferisci al fatto che, non so, se pensiamo a un bambino che vive al cospetto di un adulto, il bambino imita l'adulto nel bene e nel male, potrebbe in qualche modo, sicuramente per una parte della sua vita lo fa necessariamente, al di là anche dei meccanismi fisiologici e biologici che abbiamo a disposizione, specchia in qualche modo, però poi magari compito dell'educazione è anche che arrivi un momento in cui consapevolmente magari riesce a allenarsi, estraniarsi da questa, dal bombardamento di testimonianza e di imitazione, e magari scegliere consapevolmente poi qual è quello che sente più suo. Certo, sì, faccio una piccola chiosa. Quando si partecipa a un laboratorio si va via con molti interrogativi. Io li chiamo interrogativi attivi, che continuano a lavorare nelle persone. Come quando si assiste a un bellissimo film. Il film continua a lavorare nella nostra mente per molto tempo. Abbiamo anche necessità di parlarne, di leggere in merito, di ritornare su quegli argomenti. Quindi non bisogna mai pensare che un laboratorio non è qualcosa di conchiuso come una lezione. È l'inizio di un processo di riflessione intorno a un argomento. Allora, c'era un'altra intervento? Sì. Anche a me ha colpito il primo intervento, perché e anche tutti gli altri che sono seguiti, perché mi fanno chiedere più in generale sulle parole, nel senso, se non è un tre parole, hanno delle connotazioni, perché quello che mi arriva dalle tue domande è che c'è un connotato positivo per comunicare e uno un po' più negativo per trasmettere, ma mi chiede, però mi arriva, no? Sì. Dalle tue certo, prese, se tu dici dittatore, certo. Può diventare estremamente negativo, questo sì. Sì. E quindi mi chiedevo, come percepiamo le parole? Certo, le possiamo percepire andando a ricercare l'etimo, che ci dà una base comune, ma anche il significato viene dal nostro vissuto personale. Quindi magari per me trasmettere mi faceva subito pensare a riferimento a Freire, sull'educazione come depositare qualcosa negli altri, quindi trasmettere, oppure la maieutica, o anche la Montessori, e la critica al vaso vuoto da riempire, che mi sembrava nell'ottica di trasmettere. E anche comunicare mi venivano subito in mente, mi veniva in mente come comunicare, no? Anche lì ci sono tante modalità possibili, tante declinazioni, comunicazione non violenta, comunicazione efficace, ecologica, comunicazione verbale, non verbale, paraverbale, quindi ecco, per me si sta molto ampliando il discorso. E le prime cose proprio che mi sono venute in mente per trasmettere è l'immagine di una linea, e invece comunicare mi è venuto più come un processo. E quindi un po' quello che diceva Irene, trasmettere è unidirezionale, invece comunicare lo vedevo come passaggio di messaggio che implicava feedback, circolarità, reciprocità, come qualità. E implicava l'ascolto, quindi c'è nel comunicare questa doppia dimensione del parlare e ascoltare. E poi mi veniva in mente questa frase che penso che sia di Vaslavic, ma non mi ricordo: anche quando non si vuole comunicare si sta comunicando. E poi per aggiungere ancora più complessità, anche pensavo alla nostra attualità, dove comunicazione è anche collegata molto al marketing, e quindi comunicazione in questo senso, se voglio tenere un po' quello che dicevi tu, diventa un po' torbida, perché si ricollega a tutto quello che è trasmissione, per quello che facevi gli esempi tu, perché per esempio c'è l'ufficio comunicazione, sì, no? Certo. Oppure anche nelle dittature, sì, c'è guarda, proprio il servizio, sì, sì. No? I servizi, infatti, che cercano di comunicare. Comunicazione, quale comunicazione, di che comunicazione stiamo parlando, sì. No? Sì, uno dei libri di Danilo è intitolato così: La comunicazione di massa non esiste. E appunto, il marketing è comunicazione? Questa è la domanda. È vera comunicazione? Ora, tu avevi chiesto la parola. Prima di dare la parola a te, una domanda per tutti. Immaginate un processo relazionale fatto di trasmissioni, in cui ognuno dice quello che sa e non ascolta assolutamente l'altro. E magari vogliamo progettare insieme. Vi dico subito, ma lo sapete già per esperienza, che si finisce per litigare. Che la comunità che vorrebbe nascere, coprogettata, co, il prefisso co, abbiamo detto prima, significa insieme, non può nascere. Se qualcuno o tutti pretendono di trasmettere, vogliono far prevalere il proprio punto di vista su quello degli altri, lo vogliono far vincere. Voi potrete dire che si tratta di comunicazione, ma quella è falsa comunicazione. Perché è falsa comunicazione? Attenzione. Se ciascuno di noi mette in campo quel che sa, alla fine tutti sapremo la somma delle conoscenze di ciascuno. A più B più C più D più E più F più G. Questa è una somma. Se abbiamo un problema di cui nessuno conosce la soluzione, la semplice trasmissione fa una somma, non risolve il problema. La comunicazione autentica, il dono reciproco, è qualcosa di diverso, perché improvvisamente, se ci si ascolta e si vedono le cose dal punto di vista delle esperienze degli altri, accade un miracolo. Non si può definire altrimenti. Miracolo etimologicamente significa meraviglia. Qual è la meraviglia della comunicazione? Che rende tale la comunicazione? Perché offre un dono a tutti coloro che partecipano a questo processo. Ciascuno di noi lo sa già. Quando ho un problema importante che non mi fa dormire la notte e incontro un amico, un'amica, un gruppo di amici, istintivamente ne parlo. Come stai? Mi succede questo. I due non sanno trovare una soluzione. Arriva un terzo, partecipa alla discussione. Non sanno trovare la discussione. Ma parla e parla e parla, improvvisamente uno dei tre, ascoltandosi reciprocamente, attentissimamente, si illumina. Gli viene in mente un'idea che non era di nessuno dei tre, che non era nel gruppo, non c'era quest'idea, non circolava, nessuno ne era il portatore. Ecco la differenza fondamentale. La comunicazione, quando è vera comunicazione, non può che essere generativa, creativa. All'improvviso scopriamo quello che non sapevamo, all'improvviso capiamo come risolvere una situazione, all'improvviso sappiamo, vediamo, idea, significa immagine, è una parola indoeuropea, idein significa immagine. Ci viene in mente qualcosa che prima non vedevamo, guardavamo ma non vedevamo. L'interazione comunicativa del gruppo dona al gruppo qualcosa che prima non c'era. Questo è il prodotto dell'intelligenza collettiva. Attenzione, se ciascuno avesse solo trasmesso senza capacità d'ascolto, sarebbe rimasto nel suo. Avrebbe dato il suo apporto, che si sarebbe sommato all'apporto degli altri, ma non sarebbe stato attento a che cosa? A cambiare il proprio punto di vista, a integrarlo con quello degli altri. Siamo in un'officina meccanica e lì c'è un motorino, un'automobile che ha un problema. E voi vedete, nelle officine meccaniche spesso discutere, magari il caporeparto con il stanno discutendo, siamo in ospedale e c'è un caso clinico e ci sono i medici che discutono. Un medico che non discute dice solo fate questo. Il medico che discute ascolta tutti gli altri, anche se poi ha la responsabilità finale di decidere. Quando si ascoltano tutte le voci e le si intrecciano, come lei ha detto prima, rispetto a quello che avevo scritto all'inizio, ho cambiato il mio modo di vedere, perché ha ascoltato, altrimenti avrebbe detto esattamente quello che ha scritto all'inizio. Allora, sono lì, i meccanici stanno discutendo. Se uno impone agli altri la sua soluzione, può darsi che viene smontato completamente e poi rimontato e non si risolve il problema. Può darsi che quella persona viene curata, tra virgolette, nel modo sbagliato in ospedale. La comunicazione è molto più della trasmissione, ma la trasmissione di per sé è neutra. Il dittatore non è interessato ad ascoltare cosa pensi tu, cosa penso io, perché non è interessato alla democrazia. Su cosa si fonda la democrazia? Ecco la sua domanda principale. Sulla comunicazione o sulla trasmissione di uno o più esercitata nei confronti di tutti gli altri? Cosa fa un insegnante che per ore trasmette e poi chiede durante la interrogazione? Poi scusa Danilo, sì Danilo. mi piace ma non pretendo di arrivare a Francesco, scusa, cosa fa un insegnante? Cosa fa un insegnante che per due ore poi viene sostituito da un altro, ne arriva un altro e ancora per un'altra ora, per altre due ore fanno la loro lezione e dopo chiedono agli studenti di ripetere fedelmente. Se voi andate all'università, lo sapete come vanno gli studenti all'università? Spesso con il registratore, perché non devono perdersi niente. Quando è che si diventa ricercatori all'università? All'ultimo anno. I bambini sono dei ricercatori. Qualsiasi bambino piccolissimo è un ricercatore che si fa un mare di domande. Come si educano i bambini? Dicendo cosa devono pensare? Trasmettendo loro o domandando loro? Se io domando, mi pongo in un atteggiamento comunicativo, di ascolto, attivo, di scoperta del bambino, se io trasmetto, tu devi fare così, così, cosa, impartisco, cioè sto dicendo, sto pensando agli studenti come esecutori fedeli di ordini, ecco l'altra domanda. Comandare e ordinare sono sinonimi? Comandare e ordinare sono sinonimi? Possono essere sinonimi? In che condizione? E così via. Allora, se io ho davanti un bambino e impartisco delle modalità di comportamento, cioè lo sto pensando, cosa sto facendo? Sto comunicando con lui. Quando pensate di progettare un robot, siamo degli informatici e progettiamo un robot e scriviamo l'algoritmo di comportamento del robot. Questo è educare nel senso del comunicare o nel senso del trasmettere? Scrivere l'algoritmo di comportamento di un robot. Trasmettere. Non c'è assolutamente dubbio su questo, attenzione. Io posso dire che sto comunicando, ma non è vero, è sbagliato. Io posso chiamare il marketing comunicazione, ma è vero. Io posso chiamare tutto il sistema del mainstream TRIM o il sistema della comunicazione, la posso chiamare comunicazione, ma voi avete detto prima che non potete interrompere chi sta leggendo le notizie del telegiornale e chiedergli: scusa, come hai detto, me lo puoi ripetere? Anche questa semplice domanda. Scusa, mi diresti come hai avuto queste informazioni? Quel servizio visivo che hai mandato, c'è solo quello? Ne esistono altri? Esistono altri punti di vista? Chi altri c'era ad assistere a quell'evento? Voi potete comunicare così? La comunicazione è bidirezionale, come è stato giustamente detto, multidirezionale. Ma c'è di più. Quando si trasforma in vera comunicazione, autentica, distinguere, trasmettere da comunicare è difficile, ma è fondamentale. È fondamentale. Prego. C'era Oliver. No, io volevo tra l'altro mettere, perché ti agganci molto a quello che hai detto adesso, nel senso che io volevo scrivere un processo, no? Prego. È interessante, no? Cioè, io sono partito da un'idea, no? Ho fatto uno schemino, non so se si vede, che era una cosa, due puntini, una riga che li unisce X e Y e un tondo e tanti puntini dentro. Questa era l'idea sintetica, poi ho scritto tecnica e ambito, freddo, caldo, gerarchia, comunità. Questa era la mia idea da cui sono partito, che era un po' un'idea intuitiva e anche secondo me un po' dicotomica, perché noi abbiamo un pensiero dicotomico, no? Questo è bianco e nero. Anche analogico, spesso. Anche analogico, esatto. Poi, ascoltando, tanto lei che diceva esattamente il contrario di quello che pensavo io, anche lei, era anche appunto lo stesso discorso che ha fatto lui, cioè come mi scontrava la mia empatia con lei con il fatto che non eravamo d'accordo, no? Cioè, a volte ti capita nell'esperienza di stare con una persona con cui hai una grande empatia e poi dici: che cazzo di stronzo sto facendo? Ora non è questo il caso, però a me mi capita con i colleghi a scuola, no? E, persona a cui voglio molto bene, dico: cavolo, che insegnante di merda che... detto così, sto parlando tra amici, dico cose molto private. Ecco, allora mi ho detto: aspetta, Oliver, tu sei uno che dice sempre che bisogna partire dall'esperienza, per cui parti dalla tua esperienza, no? E mi è venuto in mente che avevo appoggiato il foglio su questo libro. Questo libro è un libro che ho recentemente ripubblicato dalla mia associazione editoriale, non voglio fare pubblicità, ma è semplicemente un libro molto bello che io ho usato per tanti anni, e soprattutto io ho conosciuto l'autore una settimana prima che morisse. Sono stato lui il suo ultimo allievo, perché la settimana dopo ha avuto un infarto secco ed è morto, cosa che ovviamente non mi ha lasciato molto bene, però mi ha lasciato come cosa. Ecco, e ho pensato, io ho passato a Fiesole appunto parecchi anni fa una settimana con Roberto, questa persona. Roberto Ruggeri, un grande pedagogo della musica. E ho pensato a quell'esperienza, no? Allora, Roberto con quell'esperienza parlava tantissimo, perché aveva tanto da dire, no? Però al tempo stesso era un'esperienza, noi stavamo, era un seminario full immersion di una settimana dalle 8 di mattina alle 8 di sera, cioè una cosa allucinante, specie negli anni 80. Ed è un'esperienza che ancora io ricordo come un'esperienza praticamente mistica, perché stare con lui non era solo la parte di trasmissione, lui ci dava delle informazioni, lui per esempio ci spiegava chi era Zoltán Kodály, che l'aveva fatto in Ungheria, perché le scuole ungheresi erano basate sulla musica, che era un'informazione che lui poi spiega nei suoi libri, altra, diciamo, trasmissione. Un libro è una trasmissione, tu non puoi meccanicamente andare a parlare con l'autore, soprattutto se è morto, ma anche se è vivo magari non è tanto facile parlarci, però è fondamentale, cioè è tecnica, è neutrale in certi momenti, però è decisiva, cioè in quel seminario era decisivo che lui ci raccontasse cose, così come era decisivo che lui costruisse una comunità, perché quando arrivavamo all'8 di sera si finiva, si andava a mangiare insieme e lui raccontava barzellette, e non è che c'entrassero molto con l'argomento della pedagogia musicale, ma erano la parte fondamentale, il contorno fondamentale che c'è in uno stato appunto di comunità, cioè di comunicazione come comunità. Per cui a questo punto, in questo mio percorso, per farla breve, mi è venuto in mente che la mia visione dicotomica era inutile, perché io sono d'accordo con l'Agata quando dice che non posso stare qua, cioè, sono d'accordo con il tema centrale di Danilo, fare le domande, Freire, tutto quello che vuoi. Possiamo citare 200 autori che dicono fondamentalmente la stessa cosa, dobbiamo mettersi con, dobbiamo considerare il bambino un grande ricercatore, però al tempo stesso dobbiamo anche riconoscere che noi, per esempio, come grandi abbiamo una responsabilità nel rispetto ai piccoli, e che i piccoli vengono e dicono insegnami, giustissimo, e che noi dobbiamo dargli delle cose creando l'ambito in cui, certo, loro le possono scoprire. Allora, per quelle due cose alla fine non sono così, dico, cioè quello che la mia sintesi era che non sono così dicotomiche, che sono così legate, in cui non dobbiamo perdere quella cosa che dicevi tu, del nell'ambito del dibattito, dell'ambito, cambiare il proprio punto di vista. A me quello che mi è successo interessante è che il mio punto di vista è cambiato grazie a ognuno di noi e si è affinato, è diventato, certo, più profondo, è diventato meno, meno buttato lì, meno slogan. Posso dire una cosa breve. Io ho seguito attentamente quello che stavi dicendo e penso di aver capito quando quello che intendevi dire, cioè quando si ascolta qualcuno che ti sa in qualche maniera travolgere, coinvolgere così profondamente, quello che sembrava essere una situazione strutturata per il trasmettere in realtà diventa una situazione comunicativa profonda, perché c'è forse un'empatia, non so spiegarti, quello che si prova come quando appunto uno decide di andare, che so io, a un certo convegno dove appunto però tu non puoi intervenire ma in qualche maniera assorbi completamente, quindi è come se quel trasmettitore è anche un grande comunicatore, non so se, cioè, forse non sono stata chiara per niente, però è una... Dico qualcosa su Francesco, questo, perché non c'è assolutamente un conflitto con i contenuti. Se io insegno fisica, allora i contenuti che dovrei far arrivare nella mente dei miei studenti sono quelli del testo di fisica o di matematica, molto confezionati, no? Però io posso fare in maniera completamente diversa. Allora, guardate, se io faccio un esperimento di fisica che suscita meraviglia, attenzione, emozione, e chiedo ai miei studenti cos'è accaduto, loro, io gli sto chiedendo di diventare dei ricercatori. Se invece io gli dico guardate, e poi gli do la spiegazione e gli trasmetto tutti i contenuti, non sono interessato a fare di loro dei ricercatori, non sono interessato a valorizzare il gruppo che pensa come, diciamo, valorizzando l'intelligenza collettiva. Nel momento in cui un bambino alza la mano e dice secondo me è per questo, questo e quest'altro, e un altro dice ma anche secondo me aggiungerei questo, eccetera eccetera, i bimbi costruiscono da quando sono piccoli un modello di rappresentazione della realtà. Io posso metterli in crisi, la loro spiegazione la posso mettere in crisi, ma sto facendo una cosa completamente diversa. Faccio un altro esempio. Lei ha citato la musica, il gioco, la musica. Immaginate che questa sia una scuola di musica e il nostro obiettivo è un concerto di fine anno. Ciascuno suona uno strumento e a ciascuno è affidata una parte e poi ci sarà un direttore d'orchestra. Ciascuno deve imparare fedelmente la propria parte. A fine anno sarà un successo. quel pezzo lo eseguiamo alla perfezione. Situazione completamente diversa. Possono improvvisare queste persone. Hanno eseguito perfettamente il loro pezzo. Sono degli esecutori fedeli di ciò che gli è stato chiesto di fare. Lo eseguono fedelmente. Possono improvvisare. Possono divertirsi facendo musica insieme, se non imparando ogni nota, ogni dettaglio. Possono veramente... Avete mai visto dei musicisti improvvisare? Si divertono tantissimo. Possono improvvisare se l'uno non ascolta attentamente l'altro. Non possono assolutamente. Fare musica effettivamente è questo. Se a un bambino io gli chiedo di leggere la poesia di Pascoli, di chi è che sia, e poi di impararla a memoria, è importante. Io non dico che non sia importante, ma se a un bambino contemporaneamente gli dico: ma tu hai mai scritto una poesia? Gli sto chiedendo di essere lui poeta. È una cosa diversa, ma è radicalmente diversa. Radicalmente diversa. Se io porto i bimbi in un museo e gli affianco una guida e la guida gli spiega tutto, ho fatto un buon lavoro? Sì, ho fatto un buon lavoro. Se io porto i bimbi in un museo e trovo una guida, o l'insegnante stesso, che mette i bambini di fronte a un'opera importante, talmente importante che è riconosciuto come un bene dell'umanità, e dico: cosa ci vedete? Cosa c'è lì dentro? Come interpretate? Sopporre le domande che invitano all'esplorazione. All'esplorazione non del singolo, ma del gruppo. Cioè imparo a vedere le cose dal punto di vista di tutti gli altri. E complessifico anche il mio. Questa è una cosa completamente diversa. I contenuti possono arrivare in tutt'altro modo, in un modo estremamente più efficace, che raccoglie la specificità di cui ognuno di noi è portatore. Noi siamo esseri umani, non siamo computer da programmare. Qualcuno intende l'educazione come avere a disposizione tanti computer da programmare, tanti automi che si comportino in un modo prevedibile, perché ci fa spavento che ciascuno diventi se stesso. Che ciascuno possa dare un suo contributo originale, un suo dono originale alla comunità di cui è parte. Un dittatore è interessato a sapere cosa penso io, cosa pensa lei, cosa pensiamo in gruppo. Un dittatore è forse più interessato a che ciascuno esegua fedelmente il proprio ruolo, quello che gli è stato assegnato. Può progredire così una comunità sociale, può evolvere. Quando una comunità, se è tale, si trova davanti a un ostacolo, deve sapersi ascoltare, oppure seguirà il dittatore di turno. Se non si sa ascoltare, non è preparata a questo, è una comunità che è destinata a perire. Non lo dico a caso, lo dico perché oggi stiamo vivendo una situazione di questo tipo, in cui nessuno di noi, pur essendo comunità, riesce a dare il suo contributo nella situazione in cui ci siamo ficcati. Non riusciamo a darlo il nostro contributo. Vuol dire che la democrazia all'interno della quale noi viviamo non è sostanziale. Per ora ci sono le sardine. Allora, altri su qualsiasi cosa? vogliate dire? Io però non so se in realtà c'era qualcun altro che ancora non ha parlato, lascerei. Sì. Prego. Allora, trasmettere manca di empatia, cosa meccanica, anche se ci sono le buone intenzioni, non contamina il terreno. È un seme che tenderà a inaridire. E ci sento un po' l'M maggiore e l'M minore. Ce l'ho visto subito. Comunicare, c'è empatia, si entra in comunicazione con l'altro e con... capace di riempire di allora sì, è come un seme che riempie un campo, si diffonde in un campo, germoglia, comunica azione, a me piace tantissimo. Finito. Grazie. Prego. Prego. Allora, per esempio, se io assisto a una lezione di fisica, come dicevi sì. prima, e nessuno poi alla fine mi chiede niente, mi chiede cosa è successo durante questa, io vado a casa, ma sono rimasta talmente affascinata che magari hai trasmesso qualcosa di importante, quando sarò grande mi iscriverò alla facoltà di fisica. Non è anche questo un modo di, cioè, alla fine trasmettere e portare... Sì, mi pare importantissimo quello che dici, cioè se in una situazione in cui ai bimbi viene continuamente domandato anche rispetto agli eventi fisici, non soltanto agli eventi fisici, la matematica, io posso mettere la lavanda e spiego tanta matematica. Ci saranno anche dei bimbi che hanno una loro passione innata, ma qual è la cosa importante? Che nei bimbi nasce un interesse, appunto una passione, che magari continuano a coltivare per tutta la vita. Cominceranno a leggere per conto proprio, perché vorranno sapere, sono stati attivati, il loro interesse è stato attivato. Ci sono dei ragazzi a scuola, delle ragazze a scuola, che indipendentemente dalla qualità della scuola, sono pochi, dalla qualità degli insegnanti, lo sappiamo, arrivano a scuola e vanno avanti per conto loro, ma sono pochi e sono eccezioni. Noi stiamo parlando qui del gruppo classe, di quelli dei tantissimi che si perdono, la dispersione scolastica, dei tantissimi che perdono il piacere, il desiderio dell'apprendere, stanno lì a fatica, si sentono costretti, si sentono condannati, non vedono l'ora di andarsene a casa, il tempo che passa, il tempo per pensare. A scuola lo diamo il tempo per pensare? A scuola non è previsto il tempo per pensare. Il tempo per pensare in gruppo non è previsto. Il tempo che passa, come passa? Quando si è in fase creativa, il tempo passa velocissimo. Il tempo è leggero, non pesa. Se sbagliamo, non vedono l'ora di andarsene a casa. Ma questo ci succede a tutti, in qualsiasi contesto. Se facciamo il lavoro sbagliato per noi, il tempo non ci passa mai. Se quello non è il nostro lavoro, se non siamo stati capaci, non abbiamo avuto la possibilità di individuarci, io chi sono, chi voglio veramente diventare, qual è il mio sogno, e per tutta una vita facciamo il lavoro sbagliato, rischiamo di ammalarci, questo rischiamo. Sentiamo il peso quotidiano e non siamo leggeri. Quello che facciamo non ci dà energia. Ci abbiamo l'idea che il lavoro ci tolga energia. In realtà, quando facciamo le cose che ci piacciono, possiamo fare fatica, come mi ha detto un bimbo. Quando faccio le cose che mi piacciono, prof, io me ne accorgo dopo che sono stanco, ma lì per lì non me ne accorgo proprio. Dopo mi alzo, sono tutto anchilosato, mi accorgo che devo andare in bagno di corsa. Così mi ha detto. Ma quando? Quando faccio cose che sto scoprendo delle cose, lui intendeva, quando disegno e sono creativo, questo diceva, il tempo mi passa che non c'è. E quando io chiedo nei laboratori, faccio dei laboratori sul tempo, loro dicono, il tempo passa velocissimo, quando sono innamorato, professore, quando sono innamorata, quando sto talmente bene con la persona che ho trovato, che ci voglio stare sempre. Il tempo, prof, passa velocissimo quando sto leggendo un libro che non mi riesce a lasciarlo a casa. Guardi, e lo tira fuori, è questo qui. Il tempo passa velocissimo quando discutiamo tutti insieme, prof. Un ragazzino che chiede sempre di uscire. Guardate come funziona la scuola di oggi, funziona così, che poi c'hanno 5 minuti di libertà, 10 minuti, la ricreazione. Si chiama ricreazione, non a caso, ma in quei 10 minuti cosa devono fare? Tutto. Pensate, la vostra ricreazione, pensateci, dovevate mangiare, andare in bagno, vedere, incontrare la persona a cui siete interessati, divertirvi, giocare, eccetera, eccetera, era finita la ricreazione. Quindi possiamo ripensare completamente. Ora, se ci sono altri interventi su trasmettere e comunicare, se no farei un altro passaggio. Prego. Ma io ce l'ho, nel senso che il suo intervento effettivamente mi ha schiacciato completamente. Poi anche il suo, cioè, no, della serie, io capisco che l'intenzione di un genitore, cioè secondo me davvero ci sono contesti diversi, accezioni diverse, quindi l'intenzione di un genitore è trasmettere valori, né bene o né male, perché appunto lo sappiamo, le conseguenze di genitori è cercare di trasmettere propri, piuttosto che cercare di capire quali sono quelli che nascono. Trasmettere competenze anche mi sembra una cosa interessante, nel senso non è che io le comunico, io le trasmetto. E, per cui io ero su un livello, no, di un tipo, invece loro mi hanno fatto andare su un altro. E poi un'altra cosa, ma la dico alla fine. Okay. Prego, prego. Voglio trasmettere una cosa. Perché quando lui ha parlato ora ha detto porca miseria. A chi insegna? Mi raccomando, cambiate questo atteggiamento nella scuola, perché per me è stata la scuola la cosa più brutta della mia vita. E non voglio che nessuno mi vada per questa esperienza. Veramente io non riesco a togliermi di mente gli anni che sono andata a scuola, quelli che possono andare alle serate, stai meravigliosi, l'ho scelto io, c'è la lezione e tutto. Ma quelli che ho fatto all'elementare, io ho fatto solo la quinta elementare, perché io ho 74 anni, e sono andata poi alle serali perché io volevo imparare. Ma quei 5 anni sono stati la cosa più brutta della mia vita. Perché? Perché non c'era trasmissione. Perché non c'era comunicazione, perché bisognava fare chi voleva loro, perché io ho chiesto di andare in bagno e sono stata punita. E io gliel'ho fatta lì, E poi mi mandavo le mutande di ricambio. Perché gliel'ho fatta lì, ho detto, ascolta, io con qui, ciao. Però è stata una cosa tremenda. Io qui a Firenze, Sì, sì, a Rifredi. Sono stata picchiata, sono stata. Poi c'avevo soltanto gli interrogativi nella pagella, non c'avevo nemmeno voti. Interrogativi? Tutti interrogativi. La maniera. La peggio di vedere. Eppure io non davo mai a nessuno. Cioè, sono stata bullismo totale. E non accettato, non ascoltato da, né dalle maestre, né dai genitori, perché erano le maestre, normalmente erano. Sì, che per me, veramente, lavorare, stare lì con voi e sentire che avete degli atteggiamenti diversi è un miracolo. Veramente. Proprio guarda. Grazie. C'è qualcun altro? E così mi veniva in mente che c'è contesto e contesto e abbiamo ruoli diversi a seconda del momento e del posto in cui siamo, perché mi ha risuonato quello che diceva anche ieri, che a volte anche i bambini, lo vedo anche con mia figlia, che a volte hanno bisogno di sentirsi anche delle risposte, no? Aprire questo spazio anche alle risposte, ovviamente dicendo io la vedo così e aprendo poi di nuovo al dialogo. E poiché ho un po' sperimentato tutta la parte di una scuola che sta cambiando, quindi anche, non so, ho conosciuto persone che fanno homeschooling o unschooling, che reagiscono a quello che hai sperimentato forse tu, perché ho partecipato anche a cerche in cui i genitori erano veramente arrabbiati e per me arrivavano anche con una certa violenza a questi cerchi dicendo la scuola la odiamo, la scuola ci ha fatto soffrire, eccetera. E ho anche visto purtroppo un po' la degenerazione di questo, cioè il rischio, no? Di ok, dire lasciamo completamente liberi, le regole non vanno bene perché costringono, e il rischio qual è? Che senza regole anche lì è un rischio, no? Perché i bambini sono completamente senza confini e persi. Quindi mi richiama molto anche il discorso della dicotomia, cioè lo trovo molto rischioso, no? Perché a volte si passa proprio da un atteggiamento all'opposto e si perde l'interezza. Cioè è come se agissimo per contrastare, no? E questo si vede anche nei fenomeni storici, c'è cioè, una rivalsa poi dopo. E quindi per me la saggezza sta nell'interessa, e quindi l'interessa. Cioè interessa intendo certo. Sapere che ci sono momenti e momenti, e quindi sicuramente e questo l'ho visto anche attraverso il mio lavoro di laboratori, c'è cioè questa creatività, questa proprio illuminazione, no, negli occhi di cui dicevi prima, quando i ragazzi sono veramente coinvolti nelle cose e possono ricercare ed essere protagonisti, ma trovo anche che, come dire, poi se è tutto rimandato a loro, anche lì il rischio qual è? Che magari sentono persi e forse vanno a cercare qualcosa da una parte che si impone come l'autorità, e faccio riferimento a quello un po' anche che è successo con l'alzata dell'estrema destra, dei populismi. Sto leggendo adesso un libro sul Daesh, sull'ISIS, e veramente è una situazione complessa, no? Di come è possibile che abbia richiamato tanti giovani arabi, europei, russi, e che siano arrivati là, no? Cosa cercavano? E quindi ecco, sento proprio di portare questo, no? Di sì, ricordarci di commentare quello che... No. Danilo diceva, la spontaneità da sola non è sufficiente, né sta chiedendo di lasciare liberi i bimbi, dandogli licenza di fare quello che vogliono. Assolutamente no. Questo è un equivoco. È un equivoco totale. Semmai propone un metodo, una modalità di lavoro con loro, che invece li accompagna per tutta la vita, ma mirando la loro autonomia, facendoli crescere anche come cittadini, promuovendoli come cittadini. Pensa non solo al bimbo che sa la geografia, la storia, la geografia non più, perché è stata esclusa, è diventata marginale, ora si fa la geostoria, che è un modo per non fare la geografia in tanti casi. Non solo, ecco, e questo è l'inghippo, no? Non è che gli si, cioè l'insegnante, chiamiamolo così, democratico, cos'è l'insegnante che lascia i bimbi fare quello che vogliono? Assolutamente, assolutamente no. Questo è un equivoco fondamentale. Diciamo, io sono bravo, li faccio fare quello che vogliono. Questo è un altro modo di non occuparsi veramente dei bambini. No, è anche di comodo, certo. Stiamo parlando di qualcosa che è più difficile. Attenzione, fare una scuola trasmissiva è facile. Basta accettare che la indisciplina che viene fuori o la sofferenza che viene fuori, magari di medicalizzarla, o se viene fuori un modo indisciplinato, allora si trova la sanzione giusta, il codice, il regolamento giusto. I bambini diventano un problema di ordine, anche i bambini piccoli, un ordine che bisogna sapere imporre. L'insegnante deve essere di polso fermo. Non è necessario nulla di tutto questo se si sceglie la modalità educativa fisiologica che attiene, che sa cos'è il bambino, che sa cos'è il ragazzo adolescente, che sa cos'è e lo interpreta lo studente universitario. E non c'è un conflitto tra i contenuti, c'è una modalità di interessarli profondamente, autenticamente, in maniera che diventino autonomi. Questo vogliamo, vogliamo che crescano. Cosa vuole un genitore? Che il bimbo a un certo punto cominci, cioè dica: ora posso andarmene, posso lasciare casa. Una mamma, un babbo malati vorrebbero trattenere il figlio, oppure gli vorrebbero imporre dei codici di comportamento, loro dicono, in maniera tale che io sto tranquilla, che sono sicuro, che quando esce di casa so bene cosa fa, così non gli succede nulla. Capite la differenza? Sì, sì. È enorme la differenza, no? Cioè lo voglio programmare in maniera tale che torni da me, sempre, che quando va fuori io so esattamente cosa farà, è prevedibile, però sto costruendo un automa. Non sono interessato a scoprire chi è mio figlio, cos'è che lo rende felice, qual è il suo sogno. Per un educatore sono tutti figli tuoi, non puoi aiutarli a crescere se non li ami come si ama un figlio. Non c'è verso. Comunicare ha a che fare con amore, ha a che fare con un rapporto d'amore con gli studenti, come figli. Non si può educare senza che ci sia questo rapporto d'amore. Perché quello che c'è dall'altra parte è una cosa che lei ha descritto benissimo. È una cosa che fa soffrire l'altro, che non gli concede il tempo per pensare, che non gli concede i suoi tempi, i suoi ritmi. Non chiede tu chi sei, chi vuoi diventare. Non chiede qual è la specificità di cui tu sei portatore, perché ciascuno di noi è diverso dall'altro. Quindi non possiamo, come quando si... Quando è che si sbaglia in agricoltura? Quando si fa la monocultura. Tutte piante, tutte uguali, che occupano un terreno. E poi di cosa ho bisogno? Esiste in natura una situazione così? Tutte piante, tutte uguali, tutte piantate nello stesso momento. Cosa accade? Accade che ci serve una stampella chimica, per esempio. Devo intervenire con gli anticrittogamici, con i veleni. E quindi capite perché? Perché non sto, quando faccio un'agricoltura sbagliata, perché sto forzando la natura delle cose, la sto forzando. Dico questo, che mi piace ripeterlo, ci sono oggi agricoltori che pensano e praticano e sperimentano che l'agricoltura si può fare secondo gli ecosistemi naturali. Loro parlano di foresta, giardino, edibile. Cioè loro si domandano, ma come mai un bosco, una foresta, non la coltiva nessuno? Eppure cresce rigogliosa. C'è qualcuno che ara quei terreni? C'è qualcuno che dà i concimi chimici? Allora cosa deve fare l'agricoltore? Cioè, stiamo paragonando un ecosistema scolastico con un ecosistema naturale. Cosa deve fare l'agricoltore? Deve guardare come funziona la natura. E ci sono agricoltori che hanno sistemato le cose in maniera tale da costruire dei veri e propri, si vengono chiamate foreste edibili, food forest, in maniera tale che le relazioni tra le parti siano fisiologiche. Questo deve essere la scuola. In maniera tale che si accoglie appieno l'umano, semplicemente. Non posso considerare un bambino un robot che riceve delle istruzioni che le esegue fedelmente. Sbaglio tutto. Sono poi costretto a forzarlo, a irrigimentarlo, a disciplinarlo. Ma il bambino si comporta, è la persona più serena del mondo se è inserito nel contesto adatto, fisiologico. Quando faccio i laboratori, i bimbi mi chiedono di uscire solo alla fine, perché se la stanno facendo addosso, perché non volevano spostarsi e andare fuori. Questa è la differenza, capite? Questa è una differenza fondamentale. Ma non lo dico per vantare me stesso, guarda come sono bravo, no. Lo dico perché c'è una differenza fondamentale con la situazione in cui si sbaglia e si attua una didattica completamente trasmissiva. Io non trasmetto contenuti? Io ho un problema. I miei contenuti eccedono sempre quelli ministeriali. Eccedono, sempre. Perché eccedono? Perché i bambini, i ragazzi, gli adolescenti vogliono sapere sempre di più. Perché spesso scoprono loro le leggi. Se parliamo di termodinamica, c'è quello che alza la mano e dice ma allora funziona così? Eh sì, guarda, questo è il secondo principio della termodinamica. Accade questo, capite? Quindi, nella situazione trasmissiva, io mi devo mettere la lavagna e li perdo. Metto la lavagna, comincio a spiegare, poi gli dico, poi mi ripetete, poi vi do il compito e mi ripetete. No, io così li perdo. Mentre l'interrogarsi reciproco crea un'attenzione, un interesse, una curiosità che dilagano. Il mio compito qual è? Quello di farli tornare, perché fanno un sacco di associazioni di idee con il pensiero analogico, per cui vanno da una materia all'altra e così via, da una cosa all'altra. Perché imparare è imparare etimologicamente significa prepararsi a, ma imparare è connettere le cose che ci appaiono disgiunte. Sembra che questo non abbia nulla a che fare con questo, invece scopro dei nessi. Uno dei sottotitoli del libro di Danilo è intitolato Nessi tra esperienza etica e politica. Esperienza etica e politica. I nessi sono molteplici. Palpitare di nessi, un altro dei libri di Danilo, no? Il connettere. È estremamente importante. Cioè pensare agli studenti non sì singolarmente, uno per uno, ma pensarli anche come gruppo. Danilo diceva, perché prima di essere qualsiasi altra cosa era un poeta, e diceva creatura di creature. Questa è l'espressione che usava. Un biologo potrebbe dire un meta-organismo. Ritornate per un attimo a quella creatura di creature che è un gruppo di persone che intendono suonare insieme e improvvisano. Guardateli mentre improvvisano, sono estremamente attenti all'altro. A un certo punto vedete che gli scappano dei sorrisi perché stanno godendo, letteralmente stanno godendo e il piacere che vivono è enorme. Se non c'è il piacere di scoprire le cose, se questo piacere lo togli e tu diventi solo un ripetitore, io ti posso dire la cosa più importante del mondo, tu me la ripeti, ma non ti fa né caldo né freddo. Me la ripeti perché sei come un automa. Se voi guardate, c'è una raccolta di poesie di Danilo Dolci, interlocata, è intitolata Se gli occhi sorridono. Se voi guardate il viso di un bambino, di un ragazzo, di un adulto, che improvvisamente scopre qualcosa, e gli guardate il viso si accende improvvisamente in un sorriso. Ma è il sorriso di chi ha scoperto qualcosa. Il piacere è fondamentale in tutto quello che facciamo, mentre abbiamo l'idea del sacrificio in mente, della sofferenza, che le cose si ottengono soltanto se soffriamo adeguatamente, abbastanza per tutta la vita, poi saremo ricompensati. No. Nel fare qualsiasi cosa, se non si prova gioia, non la fare. Se non provi gioia, non la fare. Se la fai per denaro, non la fare. A scuola quello che manca è la gioia e deve essere l'indicatore. Se vedi che stanno bene, che sono sereni, vuol dire che stai lavorando per bene. Quando facciamo le cose per la comunità, se le facciamo con fatica, ci possono essere due ordini di problemi. Siamo solo noi che ci muoviamo, ci viene chiesto di essere degli eroi. C'è qualcosa di sbagliato in questo. Non sappiamo condividere. C'è qualcosa di fondamentalmente sbagliato. Se addossiamo tutto il lavoro a una persona, a quella persona gli stiamo chiedendo di fare l'eroe. E questo è sbagliato. Ora, ci abbiamo poco tempo, ma vi chiederei, cioè, sono diviso tra due cose. Uno, farvi partecipare di un laboratorio tenuto da Danilo su questo stesso tema all'Università di Guadalajara, però magari vi mando le fotocopie. E invece vi vorrei chiedere di far mente locale su tutte le situazioni a cui avete partecipato personalmente e in cui si cerca di discutere insieme. Cosa succede di negativo? Dove si sbaglia quando si discute insieme? Pensate ai talk show televisivi, dove sbagliano? C'è qualcosa che fanno di positivo? Oppure dove sbagliano? Pensate alle riunioni, non so, io da docente, quelle che fanno gli insegnanti. Oppure tutte le riunioni che le fate voi. Io che sono educatrice, metti più di due insegnanti, ecco, insieme. Ma la domanda per ciascuno di voi è, cos'è che, dov'è che si sbaglia quando si tenta di fare una riunione per qualsiasi motivo, in qualsiasi contesto? Dai talk show televisivi, dov'è che si sbaglia? E dov'è che, vediamo di mettere insieme tutti i difetti di queste riunioni, pensateci un attimo e diciamoli, nel bene e nel male. Non saperci ascoltare. Ecco, cominciamo a fare un elenco. Pensateci... L'intenzione. Cioè, ora pensando ai talk show, l'intenzione è fondamentale, perché magari chi conduce la trasmissione deve fare lo chef, chi rappresenta una parte politica deve conquistare l'elettorato, quindi questa intenzione poi pesa nella cioè, comunicazione, sì. la deforma. Sì, questo per quanto riguarda i talk show. Sì. Il ritmo, anche la questione dei tempi, per esempio, sì. Che sta parlando prima di me, quella è la questione dell'incontinenza nel sì. Parlare, e in relazione anche al fatto che quindi devo lasciare il tempo che sta parlando di parlare, poi avere il mio tempo di poter esprimere, quindi è una questione di okay. Vediamo altri difetti. La forma la prossemica, per esempio, sono terribili normalmente. Nel senso, per esempio, la forma circolare è una forma che facilita il fatto che ci scambiamo, sì, ci vediamo, ci guardiamo agli occhi, forse nessuno è sopra un altro, sì, sì. Per cui tutta la prossemica normalmente invece è proprio... Sì. E Senta il conflitto, verità. Io metto una domanda, tu hai usato un verbo, scambiare, no? Ricordo Danilo che ci chiese, che anzi ci mise davanti a questa situazione, tu vai, ha detto proprio all'edicola, dai un euro, prendi il giornale, ha detto questo è uno scambio, no? La comunicazione è solo scambio, lui diceva, chiedeva, lasciava intendere che la comunicazione è più di uno scambio. Io la lascio come domanda, ci ho messo tanto a intendere cosa volesse dire Danilo. Prego. Io vorrei fare un esempio di una cosa che mi ha colpito molto, che è un po' con queste relazioni. Mi è capitato anni fa di essere invitato a una cena cucinata in Eritrea, e lei addobbò questa tavola, mettendo, loro fanno delle sorte di focacce, piatte, poi mettono il cibo al centro, tutti si siedono intorno e devono mangiare. E mi ha fatto riflettere su come invece mangiamo, in cui il cibo viene messo già nei piatti ed è già definito, no? Quando si trasforma la sua porzione in questo senso. Sì, no, il discorso è che quando tu mangi devi stare attento che ce ne sia per tutti, cioè il mangiare da uno stesso tavolo è una modalità che costringe a mettersi in relazione agli altri, a stare attenti che ne basti per tutti. La cura. No? Quindi è il fatto di, e questo nella discussione, il fatto che si è, non sei tu ed è il tu la tua occasione, ma è un qualcosa in cui tutti devono avere la stessa, no? Mi sembra importantissimo, che equivale quando uno prende la parola e se la tiene, esatto, è come se mangiasse il cibo degli altri. Esatto. Quello è una, ma anche il fatto che quella roba è un insieme, per cui se alla fine emergo solo io, no? Non ho dato. È un po' l'insegnante che seduce gli studenti con il suo parlare, è sempre lui che parla, lui diventa la bocca della verità e così via. Ma l'insegnante non deve essere un seduttore, deve riuscire a far parlare gli altri, cioè deve riuscire in un compito che forse è più difficile. Io non mi devo trapiantare nella testa dello studente, devo far educare e tirare fuori, se torniamo all'etimologia. Devo riuscire a scoprire chi è la persona che ho davanti a me. Ma questo limitandoci alla scuola, e nei contesti invece in cui si ragiona tutti insieme, appunto, quali sono le patologie? Tiriamole fuori. Secondo me una delle patologie che io sento più aggressiva e più forte, e che non guardo mai, ho pure nelle riunioni che ho fatto io in vari contesti, è non accettare l'idea dell'altro, e quindi non accettando quello che dici te, ti parlo sopra e ti dico no, ma non è così quello che dici te, ma si deve fare così. Guardate il suo gesticolare, no? Infatti, certo, anche fisicamente e anche con la voce, alzare la voce. Ecco, verissimo. E questo a me mi atterra. È la forma della lite. Noi non ci pensiamo, ma è strano. Guardate due persone che stanno litigando, non solo gesticolano come tu hai fatto, ma alzano la voce, sì, come se fossero distanti, sì, e non riescono ad ascoltarsi. Quando è che si alza la voce? Quando non ci si sente capito. Quando non ci si sente, no? Ma lì gli vai vicino e gli urli in faccia. Perché? Domandiamocelo. Perché gli stai urlando in faccia? Questo è estremamente importante. Altre situazioni tiratele fuori, patologiche. Io c'ho una situazione che mi capita sul lavoro spessissimo, che delle cose pregresse rendono a volte impossibile il dialogo, e trovo molto difficile da gestire queste cose che uno si porta da prima e le porta dentro magari una discussione, cioè gestire tutti questi vissuti pregressi, tutti i macumuli di di rabbia oppure sfiducia, pregresso. Sì. Lei prima ha utilizzato una parola, io me la sono segnata, che è risonanza. Allora, la risonanza, si dovrebbe farci un laboratorio su cos'è effettivamente la risonanza. Però intanto vi descrivo il fenomeno fisico. Se qui io metto un diapason e qui ne metto un altro e li accordo sulla stessa frequenza, succede questo fenomeno. Suono il primo, il secondo, dopo pochissimo, comincia a vibrare in risonanza con il primo. Noi siamo oggetti risonanti. Quando io posso risuonare in modo negativo e in modo positivo con gli altri, se mi trovo al cospetto di una persona che mi sorride, risuono positivamente con questa persona. Se mi trovo al cospetto con una persona che è aggressiva e introversa e mi guarda male, come risuono con questa persona? Mi predispongo, se non sono un santo, mi predispongo alla difesa. Quindi non solo, ma se io mi muovo nella vita intorno con questo atteggiamento negativo nei confronti degli altri, mi ritornano indietro da farmi star male, perché una persona così rafforza il suo comportamento negativo perché riceve un mondo ostile su di sé. E quindi vi chiedo di pensare a quando vi sentite bene e andate in giro e vi viene naturale sorridere agli altri perché state bene. Cosa ricevete? Risuonate positivamente con gli altri. Ora, noi in certe situazioni invece ci comportiamo, non cerchiamo di cambiare le cose, non ci riusciamo. Dentro di noi non c'è un atteggiamento che ci permette di sorridere anche davanti alle avversità. Perché è estremamente difficile, è una forma superiore, insomma. Chi sa guardare dall'alto, sa guardare dall'esterno, riesce a fare questo. Altrimenti no. Ma se noi ci muoviamo, se io vado a scuola e sono arrabbiato, ma immediatamente lo sentono, s'aspettano qualcosa di negativo. Ho creato una situazione di tensione. Se io vado a scuola e minaccio, guarda, se non fai bene, prendi un 2, prendi un 3, posso avere qualcosa, la minaccia, la paura, è il primo passo verso la violenza, ma è già violenza, perché è violenza certo, psicologica. Certo. Se questa violenza un bambino la riceve da subito, quando va a scuola, dopo un po' ti dice, io mamma a scuola non ci voglio andare. Ma come non ci voglio andare a scuola? Ma non è bello a scuola, come non ci voglio andare a scuola? Giochi, ci sono gli altri bimbi come te, impari le cose. No, io non ci voglio andare a scuola. Si può fare lezione terrorizzando i bambini, incutendo timore, non terrorizzandoli esplicitamente, ma incutendo continuamente timore. E in questo modo si pretende di avere il meglio da parte dei bambini. Sapete qual è la verità? È che fare diversamente è difficile. E perché è difficile? Perché ciascuno di noi non ha avuto un'esperienza positiva e non sappiamo come si fa. E quando diventiamo adulti pensiamo che quello, tutto sommato, è l'unico modo. E questo perché non abbiamo avuto l'esperienza di partecipare a una situazione positiva, noi per primi. E quando facciamo i genitori, magari abbiamo subito i nostri genitori, oppure abbiamo avuto la fortuna di aver avuto dei genitori splendidi, ma riproduciamo nel bene e nel male quello che abbiamo ricevuto. Altre situazioni riusciamo a tirarle fuori prima, quando discutiamo insieme in maniera negativa, cioè vogliamo comunicare ma non ci riusciamo. Prego. Una cosa anche fa parte del trasmettere, come la radio che si sintonizza su una lunghezza d'onda, nel trasmettere c'è anche il circoscrivere gli ambiti di significato, avere un ambito di parlabile e un ambito di sommerso, e non arrivo al parlabile. E questo è la mia nota, che quello è stato detto, che dicevo fa, che abbiamo tutti noi molto presenti gli esempi in cui siamo coscienza. Sì, ma è importantissimo. Anche se hai parlato difficile. Sì, però hai detto molto bene. Sì. Altri? Volevo dire che spesso si creano queste situazioni, come dicevi, siamo un po' abituati a vivere, perché diventa quasi un'occasione di sfogo nelle riunioni, cioè io dico tutto quello, finalmente l'ho detto io, ho detto la mia, e ognuno dice la sua, come per sfogarsi, basta, finisce. E finisce. Perché siamo un po' abituati, non siamo proprio... Sì, imporre il proprio punto di vista su quello degli altri. Non vedere le cose dal punto di vista degli altri. Sono due mondi diversi. Siamo lì, stiamo discutendo, siamo in gruppo, ma stiamo facendo due cose completamente diverse. Le persone che si vogliono bene ascoltano l'altro. Voglio bene a mio figlio, a mia figlia, ai miei amici, li ascolto profondamente. Ascoltare non significa soltanto capire. Significa, se si tratta del mio compagno, della mia compagna, che mi sta dicendo qualcosa, ascoltarlo significa cambiare il mio comportamento se c'è qualcosa in me che sta facendo soffrire l'amico, la persona amata, il figlio. Questo è più difficile. Questa però è vera comunicazione. Tutti falliamo in questo. In pochi ci vuole un enorme, grande amore. Perché falliamo? Perché ci mettiamo noi in primo piano. Le nostre esigenze. Il rapporto d'amore è un rapporto in cui ciascuno delle persone in campo ascolta profondamente l'altro e riadatta, è un riadattamento reciproco creativo. Riadattamento reciproco creativo nei confronti dell'altro e l'altro nei confronti, quindi è un'evoluzione di questa creatura che è una creatura di creature. La coppia è una creatura di creature, il gruppo è una creatura di creature, evolve, cresce. Un gruppo non può nascere dopo due ore. Evolve, cresce nel tempo, nel bene e nel male. Può venire su bene, può venire su male, ma le condizioni per cui venga su bene quali sono? Quelle della comunicazione, cioè dell'ascolto profondo, reciproco, e del riadattamento reciproco, che significa l'evoluzione del gruppo. E come si vede se funziona? Perché fa piacere stare lì dentro, perché ci dà piacere. Ci dà un piacere immenso. Se io sto con una persona che amo e questa persona mi ascolta, io ascolto lei, diventa la cosa più bella del mondo. Tanto da generare in maniera meccanica una nuova vita. No? E questo è l'incontro con un uomo, con una donna che dà vita a qualcosa di nuovo. No? Cioè la comunicazione vera e creativa. In senso completo, nel senso completo del termine. La trasmissione non può essere creativa, ma la trasmissione può essere neutra. Certo, non è più neutra se a trasmettere è il dittatore. O il piccolo, diciamo, pochi nei confronti di tutti gli altri, che lo chiamiamo oligopolio. Volevo aggiungere che nella comunicazione con l'altro, almeno la mia generazione, non so, i giovani va meglio, non sappiamo riconoscere i sentimenti, non sappiamo riconoscere i bisogni profondi. Quando, sono un po' di anni che sto facendo comunicazione, è difficile focalizzare il bisogno. Se cominciassimo un attimino a vedere quello che succede all'interno nostro e poterlo tirar fuori e offrirlo all'altro, l'altro probabilmente potrebbe fare la stessa cosa e si troverebbe la linea, la terra di mezzo. Certo, hai usato questa espressione rispetto alla quale Danilo era estremamente critico, comunicazione non violenta. Lui diceva, Danilo, se è vera comunicazione non può essere violenta, questo diceva. Noi mettiamo insieme, per esempio diciamo cultura non violenta, lui diceva se è cultura non può essere violenta, la cultura è una cosa complessa. Ecco, ecco che chiedeva di distinguere trasmettere dal comunicare, ma diceva trasmettere in generale è neutro, non è sufficiente trasmettere, e se la trasmissione è continuativa e non concede alla comunicazione il suo tempo, diventa violenta. Ecco cosa dice. Se io trasmetto continuativamente tutti i giorni a un bambino, man mano che cresce, sempre, gli chiedo solo di ripetere fedelmente, altrimenti lo punisco, io divento violento nei confronti di quel bambino. E quella violenza mi verrà restituita in una forma o nell'altra. Se lui non diventa violento verso gli altri, lo diventa rispetto a se stesso, si ammala, si drogherà, diventerà dipendente, perché cercherà quella gioia, quel piacere, insurrogati del piacere, della gioia vera, surrogati anche chimici o di qualsiasi tipo. Se noi, io ho fatto dei laboratori in cui ci siamo chiesti, con i miei studenti l'ho fatti, siccome giustamente il problema delle droghe è un problema, allora io chiedo loro, ma quali sono le forme di dipendenza, oltre a quelle di cui diciamo sono vittime anche i bambini, se fumano le canne o se eccedono nel consumo di alcol, quali sono le forme diffuse di dipendenza tra gli adulti nel mondo di oggi in generale? Guardate, viene fuori un elenco lunghissimo, che è l'elenco della sofferenza che tutti noi come adulti viviamo giorno per giorno. È un elenco infinito, lunghissimo, delle dipendenze che noi ci costruiamo. Perché? Perché dobbiamo fuggire da un mondo che non ci dà più gioia. Evidentemente una cosa non so se sto parlando, però visto che Danilo insisteva a dire la vera comunicazione e non voleva neanche che ci fosse bisogno di aggettivarla per distinguerla. E allora mi parlavo al massimo di comunicazione maieutica, ogni tanto aggiungeva il termine maieutico e poi anche un altro termine, comunicazione maieutica reciproca. La parola reciproca è perché, ora per esempio le domande le ho poste io, ma se noi continuassimo a frequentarci verrebbero fuori tantissime domande da parte di ciascuno. Allora il mio ruolo piano piano nel corso del tempo calerebbe e ciascuno diventerebbe maieuta all'altro. Ecco la comunicazione, però questo a lungo andare, quando un gruppo diventa maieutico, diventa la comunicazione maieutica, si fa reciproca, ciascuno diventa maieuto all'altro. Ecco, mi faccio una domanda. Come vedere i social network e il dilagare dell'uso anche dei messaggi nella comunicazione? Sì. Dunque, ricordo che erano gli anni 90 e cominciava internet negli anni 90, in particolare nella facoltà di fisica c'era, è arrivato per primo internet, no? E ne parlavo con Danilo e lui mi diceva, dice il telefono è un passo avanti rispetto alla televisione, e diceva la televisione ti immobilizza lì. Tu non puoi interloquire con la televisione, tant'è vero che, pensateci, sono nate forme per cui si telefona in trasmissione, no? È un tentativo di superare questo ostacolo. Lui diceva, il telefono c'ha una cosa, è bidirezionale. E già questo è importante, lui era uno che ti chiamava alle 7 del mattino per progettare le cose. Perché? Perché se ne andava a dormire molto presto, faceva come i contadini, e poi si svegliava alle 4 del mattino e diceva, vabbè, tutti gli altri saranno svegli alle 7, per cui sì, ti chiamavano. Perché lui lavorava come lavorano i contadini nel sud, no? Cioè vai a dormire alle 8, alle 9, ti sveglia alle 4, e lui diceva il momento migliore per lavorare è la mattina alle 4. Alle 4 in giù. Era estremamente però ecco, questo lui diceva, il telefono che usava moltissimo è bidirezionale, non c'è comunicazione, la comunicazione non è garantita dalla solo da, se ognuno trasmette non c'è ancora comunicazione. Il discorso di prima, io faccio una telefonata con qualcuno, io gli dico le mie cose, lui non ascolta le mie, lui mi dice le sue, io non ascolto le sue, non è successo nulla. Non è successo, cioè non è garanzia di comunicazione, però è un passo avanti, perché quello, quel mezzo tecnico è un passo avanti. E relativamente ai social, i social dal mio punto di vista non sono la soluzione, ma sono un enorme passo avanti, sono una sorta di sistema nervoso dell'umanità elettronico. Se voi state in certi gruppi di discussione, c'è una cosa che lì la comunicazione è asincrona, cioè io parlo, posso rispondere dopo, avviene su una scala temporale completamente diversa. Ci sono delle cose su cui ancora non abbiamo riflettuto adeguatamente. Ve ne dico un'altra, che tutti facciamo tutti i giorni. Se lì c'è una libreria, io vado, prendo il libro, magari è una biblioteca, e lo prendo in prestito. Dove prima c'era il libro, ora ce l'ho in mano, lì c'è un vuoto. La tecnologia digitale fa un miracolo. Io prendo il libro, ora ce l'ho in mano. Lì è rimasta una copia che è identica all'originale, ma non c'è più l'originale. La moltiplicazione del sapere è una cosa che è proprio della nostra epoca. Cioè a dire, noi abbiamo la nostra enciclopedia, faccio un nome, la Treccani, appartiene alla nostra tradizione, no? Ci sono popoli che non hanno un'enciclopedia. Quando pensiamo, perché ci abituano a pensare malamente, per esempio, a Wikipedia, io vi invito a pensare al fatto che quella è un'enciclopedia che cresce giorno per giorno con il contributo di milioni di persone ed è autocorrettiva. E gli studi che sono stati fatti sugli errori su Wikipedia dicono che ci sono meno errori lì che nella Enciclopedia Britannica. E che giorno per giorno si aggiorna, ma in quante lingue? Andate a vedere in quante lingue. È il risultato del lavoro di una comunità enorme di persone. Ve ne dico un'altra, io lavoro spesso con un programma che è gratis, open source si dice, no? E tempo fa c'era un programma che si chiamava, era un programma di matematica a pagamento, ora mi sfugge il nome, però permetteva di visualizzare dinamicamente la matematica. Per me era fantastico, perché io in quel modo riesco a fare meglio la maieutica. Però era a pagamento ed era sempre uguale a se stesso. È nato il corrispettivo open source, si chiama GeoGebra. GeoGebra, se per chi lo conosce, ogni giorno si evolve. E si evolve grazie a chi? Grazie alla comunità di tutti coloro che lo usano, che siano o meno informatici, possono essere anche semplicemente utenti. Allora, io collaboro con una comunità di insegnanti su una scala planetaria. Quando mai è stato possibile questo? Insegnanti che fanno il mio stesso lavoro, magari in Giappone, e che mi propongono delle cose che io dico, madonna, guarda che bello, questo lo voglio utilizzare con i miei. Dei lavori già belli e pronti che mi permettono di fare la, la matematica in modo maieutico, con uno strumento che è gratis e che i miei studenti si possono scaricare. È una cosa meravigliosa, mai vista. Se si va per la, se si va in rete, si trovano persone che regalano il proprio tempo, lo donano alla comunità. Andate a vedere quanti, ciascuno di voi lo sa, c'è un tutorial, c'è un tutorial per tutto. Io voglio sapere come cambiare quella particolare lampadina, trovo qualcuno che me lo spiega. Ma è incredibile, perché c'è una comunità che interagisce su scala planetaria in tante lingue diverse. E questa è una novità incredibile che vogliono mettere in cattiva luce. Io dico questo, non sto dicendo che non succedono cose negative in rete, attenzione, ma equivale a dire che siccome dei mafiosi si sono organizzati, che si sono visti nel tale bar, si sono organizzati e hanno fatto una strage mafiosa, allora il problema è il bar, perché lì sono riusciti a organizzare la loro cosa. Io non me la posso prendere con la rete. La rete ci dà delle opportunità incredibili. Pensate alle mail. Quante mail ci scambiamo? Francesco, scusami, ma io tra gli altri compiti ho anche il compito di ricordare che è finita, sì, sì, certo. E perché qui alle 6:30 è occupata da altri, okay. Perché a seguire noi abbiamo anche un'altra riunione, quindi certo, sì, sì. E poi allora sì, sì, cose, già, sì, sì, già. Ma se lei ha aperto un vaso di Pandora. Molto grande. Sì, sì. Ma ora io stavo cominciando a dire tutta la parte positiva, ma poi c'è una parte negativa importante. Bisognerebbe dedicare un laboratorio in cui ciascuno racconta se stesso. Perché la rete ancora non l'abbiamo capita. E la rete non è... Ciascuno di noi va in rete magari come stare dentro una grandissima città, enorme, inesplorata, e ogni giorno fa la stessa strada e poi sentenzia sulla rete. Ecco perché in questo caso è importante la forma laboratoriale. Cos'è la rete per noi? Ciascuno racconta la sua esperienza, nel bene e nel male. Ecco il gruppo, vedere le cose dal punto di vista dell'altro, dell'esperienza dell'altro. E quindi si potrebbe fare un laboratorio su quest'ultima cosa che lei ci ha proposto. Sulla rete? Allora, io non vorrei dire tre cose. Allora, una, ringraziarti, la seconda è ricordare se possiamo lasciare un contributo anche perché lui... No, ma io il contributo lo lascio qui al centro. Non vuoi per te le spese di viaggio? Sì, se c'è lo lasciamo per le spese di viaggio almeno. No, lasciamo La terza, avrei una meta comunicazione. Se vuoi, mi sono abituata da quest'estate a fare delle osservazioni sulla conduzione. Ok. No, aspetta. Questa è una cosa che faceva Danilo e la chiedeva non a uno, la chiedeva a tutti. Fatta da uno non va bene. Quindi personalmente ti dico, se tutti gli altri la fanno, sì, mi piace. Anzi, ma lui lo chiedeva così. Avete assistito, lui diceva, a un laboratorio magnetico. E poi diceva, io per tutta la vita ho cercato di migliorare l'interazione magnetica di gruppo e chiedeva a tutti come possiamo migliorarla, secondo te? E ascoltava tutti. Perché è importante ascoltare tutti? Perché non ci deve essere un punto di vista che definisce la cosa, ma deve essere il punto di vista di tutti. Quindi, semmai, se qualcuno vuole scrivere, se abbiamo il tempo facciamo un giro. Se non avessimo il tempo, se qualcuno volesse dire anche per iscritto qualcosa, poi lo lascia a un responsabile e lo mettiamo in comune in qualche modo. Allora faccio solo un piccolo commento. Okay. Assomigli molto a Danilo. Io l'ho visto, io di Danilo mio papà mi ha fatto un capo così perché ci è andato a fare la laurea lì, la ma certo le due coglioni, non ho capito bene questo personaggio perché mio padre c'è entrato in contrasto, perché Danilo era uno con due spalloni così. Ah, l'ho visto, ho fatto un laboratorio all'Università di Firenze, mi sono infilata. Ma tu hai fatto il laboratorio sulla deviazione, sulla deviazione. Mi sembrava che chiamasse così. Sì, io so di questo laboratorio. E so anche che il giudizio di tuo padre rispetto a Danilo, in quell'occasione, disse della devianza. Avete fatto un laboratorio sulla devianza. Forse ne ha fatti più di uno, non lo so, sì, io ero infiltrata perché io facevo scelte naturali anche, perché mi ero infiltrata. E lo scrisse anche, disse Alberto, dice ho assistito a un laboratorio finalmente meraviglioso, dice, forse perché io sono anziano, allora capisco meglio, ha detto, o forse perché Danilo sapeva poco di quell'argomento. Lui ha detto la sua maieutica era effettiva, lui dice perché Danilo spesso nei laboratori diceva di predisporsi ad ascoltare gli altri totalmente, di intervenire poco. Poi in realtà imponeva il proprio punto di vista, imponeva agli altri il proprio punto di vista. Allora, rispetto a questo, io ho molta strada da fare, tantissima, perché come avete visto, ho questa, se ho a disposizione un gruppo classe, allora posso lavorare, se incontro delle persone per lo spazio di un'ora, due ore, anche tre ore, e so che le vedo, non voglio, cioè voglio fargli delle domande che contengono anche un po' di risposta. Quindi quella domanda, quando io vi dico ma un dittatore cosa fa, trasmette o comunica? Quella è una domanda che, in cui io ho inserito dentro un pezzetto della risposta, perché tutti noi sappiamo che un dittatore non è intenzionato a comunicare. Un dittatore non vuole sapere cosa pensi tu, o se lo vuole sapere è per condizionarti e farti fare quello che lui intende farti fare. Questo è importante. Quindi è vero quello che lei dice, cioè io oggi ho parlato molto nelle tre ore, ho detto moltissimo io e non vi ho lasciato con i vostri dubbi. Qualcuno ho cercato di togliervelo. Qualcuno non ci sono riuscito, assolutamente, ma so che nel corso del tempo, la maieutica funziona nel corso del tempo, in voi sorgeranno ancora domande, oppure il tentativo di trovare risposte. Di sicuro vi ho attivato rispetto a questa cosa, trasmettere e comunicare sono due mondi opposti e nella confusione mentale in cui viviamo li pensiamo sinonimi. Ma se riusciamo a discriminare, trasmettere da comunicare, ci si aprono dei mondi. Questo è importante. Ed è per questo che mi sono permesso di anticipare quello che penso io. Allora, vabbè, facciamo un applauso, che è un modo di applaudire. Noi però si potrebbe sapere qualcosa di questa economia, perché anch'io provo a organizzare i prossimi conti, lo richiameremo. Sì, ma molto volentieri. Perché io non so. Ma io devo Bravo, bravissimo. Ma io sempre questo, io sempre. Leonardo, è esattamente come dici tu. Stiamo arrivando esattamente a quella conclusione. Malgrado i venduti qui, sì, i falsi, malgrado i popolari di casa nostra che sono i primi che. Il Regno d'Italia era un paese in cui c'è qualcuno che fa una stazione, vedo sì. E se non diventiamo quello che sta facendo da 40 anni, ma te rimani a fare i motori qui sono Bilderberg, i 300 che guidano le fila della finanza mondiale, sì, sono questi in sostanza. Senti, di fatto si mettono qua, no, sì, io guardo sia disegni perché mi insegni. Comunque, cioè, come lo puoi fare? Perché se non lo fai, io sarei un padre di no, non è più. No, io non è che dico. Se tu trovi gli articoli che ora che non sono solo con voglia di sì, se vai su sì, se vai su sì, ma volevo guardare un po' sì, ma io spero che hai fatto poi sei uscita a andare a parlare con loro no, parlare con loro no, lui ci dice ora io parlavo su internet e cercare tu voi. Sì, ma te dove sarai? Io sono in Instagram. Ecco, ti metto nel gruppo, oggi fai quello che conto loro. Guarda le figli, lo segnano qui, però ma per ora si va di là e poi agli altri e qui si deve liberare perché alle 6:30 poi si deve capire se gli altri o Possiamo che attraverso il corridoio, sono quelli che poveretti hanno il loro spazio. Ma, Agata, ma te mi potresti accompagnare? Francesco, no, aspetta, no, io sto chiamando, volevo chiamare mio figlio, se ha trovato qualcuno. No, ma che però voglio chiamare mio figlio. Ma molto volentieri, se lo dite a Irene e lo organizziamo. Se mio figlio trovasse un cammino. Con Don Milani ha collaborato, ma non moltissimo, non moltissimo. Ha collaborato molto con tanti altri. No, non lo so, ma non ho mai provato scritto, non ho mai provato a citare. Non lo so. Però collaborava con la Pira, grazie a te. Va bene, lo dica Irene. Ci rivediamo. Ciao. Ci rivediamo, ci sentiamo poi con calma. Sì, se c'è qualche. Se c'è qualcosa mi puoi anche scrivere, mi trovi la mail. Francesco, se puoi col navigatore entrare lei viene con noi e guarda la strada. Io devo andare in bagno. L'acqua è del tutto finita. No, è da portare in acqua. Stai arrivando sotto te? No, non c'è qualche verso sotto. Grazie, è stato un bello. Bello. Quando ci sono queste crisi, non è. No, no, invece c'è tanto. Veramente, veramente grazie. Veramente sono contenta di esserci stata.